Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farli scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. Credo che sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Lui a 3 mesi delle elezioni se n'è andato, sì. E penserà mica che ci siamo dimenticati. Quando lo incontro gli dirò: non ci siamo dimenticati, ti conosciamo mascherina, ti conosciamo, quindi adesso cerchiamo di capirci. Finalmente l'onorevole Bersani si è aperto, si è reso disponibile a un incontro. La data di questo incontro non è stata ancora fissata, ma voglio dire, quella che è la posizione del Popolo della Libertà, la mia posizione, ormai la conoscono tutti. È appena finito e sembra che non sia andato benissimo, caro Parenzo, questo incontro al vertice, Bersani-Berlusconi. Chissà se gliel'ha detto mascherina. Vuoi farmi il pacco? Intanto Berlusconi aveva fatto precedere questo incontro con un'altra delle sue. Senti che cosa ha detto: la signora Thatcher mi ha difeso contro la magistratura. Bah! Ti risulta? Perché dici sempre queste cose quando i protagonisti muoiono? È meraviglioso. Senti, è morta la signora Thatcher, poverina. Senti. Lady Thatcher mi ha onorato della sua stima e della sua amicizia fino al punto di intervenire in mia difesa di fronte alla continua aggressione mediatico-giudiziaria della quale da quasi 20 anni sono bersaglio. E mi ha sostenuto con più lettere aperte. Insomma, la domanda è questa: si farà o non si farà un governo? Poi il Partito Democratico non la vuole chiamare governissimo, non vuole dire che fa l'accordo, vuole solo il via libera. Bossi oggi ha detto: se fossi in Berlusconi darei il via libera al governo Bersani, dato dopo pochi mesi ci va a schiantare e poi vinciamo noi. Però se tu vuoi utilizzare una tattica di questo tipo, non è che la pubblicizzi, no? Non la espliciti. La Santanchè intanto continua a dire: mi viene da vomitare. Sì? La Santanchè, la conosci? Ma sì? è ancora in circolazione? No, ma dai, adesso perché devi dire così? No, ma perché va? Perché sono i protagonisti di una roba vecchia. È tutto finito ancora con questi nomi. Ma state occupando il Parlamento? I 5 Stelle? Abbiamo occupato il Parlamento. Lo abbiamo preso per dire che è tutto morto. L'industria, voglio dirlo, ma perché Squinzi ha ancora una salve? Ma non serve. Ma come non serve? Ma perché deve citare Squinzi anche? Ma non c'entra niente in questo caso. Ma è fissato. Non serve a nulla. Il Parlamento, sono lì a non fare un cazzo tutto il giorno. Si incontrano tra di loro. Aspetta. Loro, tutto sì, ma ci siete anche voi però. Santanchè, mi viene da vomitare a governare con voi, rivolto al PD. No, con la significa Nino, che non prendi atto della situazione. Fare, figurati me, mi viene da vomitare a pensare di governare con voi. Ma figurati. Ma siccome penso a quelle piazze. Ma quale l'amico Vittorio Sgarbi ripete la follia che alcuni esponenti della CGIL hanno detto in questi giorni, cioè che i morti, i suicidi sono colpa o della Fornero, o di Monti o cose di questo tipo. I suicidi sono a carico di Monti, caro Vittorio, su, caro Vittorio, dai! I suicidi vanno a carico di Monti e del suo governo. quando c'erano i governi precedenti non c'erano i suicidi, quindi vuol dire che la ricetta è stata una ricetta che ha fatto come... Tu hai mal di testa? C'è un metodo formidabile, ti taglio la testa. Questo è Monti. Anche tu con questa demagogia da quattro soldi, Vittorio, te lo dico in faccia la prossima volta. Non è che i suicidi sono a carico di un governo, come si fa a dire una cosa di questo tipo? Su, dai. Ormai pur di dire qualcosa, capito? Direbbe dai, qualunque cosa. Su. Si candida, c'è un comune qui in provincia di Padova dove potrebbe candidarsi, un piccolo comune, si chiama Albignasego. Non si è ancora candidato sindaco in questo piccolo comune. Allora qui c'è un deputato del 5 Stelle che si chiama Colletti che vuole fare il presidente della Camera. Colletti, non lo so. Vuole fare il presidente della Camera e dice a Lupi, che è il presidente pro tempore durante la seduta di oggi: non interrompa. Ma come non interrompa? Quello è il presidente, Colletti. Allora, grazie presidente. Purtroppo, come spesso accade in questa assemblea, vi sono deputati che votano anche per deputati assenti. Questo comportamento rasenta la truffa ed è un comportamento vergognoso. Mi scusi, onorevole Colletti, il suo richiamo è un richiamo corretto. Allora, invito... presidente, prima di tutto chiedo mi sia concessa la parola e quindi la invito a non interrompere, grazie. No, mi scusi. Lei ovviamente, il presidente la può interrompere, non in quanto onorevole Lupi, ma in quanto presidente la può interrompere. Vabbè, i regolamenti parlamentari, come non interrompe? Il presidente è l'unico che può interrompere. Io voglio capire dove diavolo sei, perché c'è un rumore pazzesco. A casa, a Padova, dove sei? Dove sei? Ah, no, non si capisce niente. Va bene, 800-24-0024, è con noi colui che si è candidato, un outsider a sindaco di Roma. Hai sentito la sbroccata l'altro giorno di Alemanno sulla 7, Parenzo? Sì, sì, me l'abbiamo mandata anche ieri, scusa. Una cosa pazzesca, no, pensavo te la fossi dimenticata. Ora, io voglio dire, vabbè, Alfio Marchini è con noi, buonasera. Buonasera. Come sta? Beh, molto bene, grazie. Allora, candidato sindaco Comune di Roma con la lista civica, Alfio Marchini con Roma. Cioè, mi dica una cosa subito, Marchini. È un uomo molto bello, è considerato. Oh, mamma, subito con questa cosa, io lo sapevo. Ho detto che è considerato a Roma da molte donne. E vabbè. Allora parliamo subito di politica. Cosa vuole fare per la rinascita? No, però lascia perdere. Ma subito con questa domanda stupida, bello, non bello, che ce ne frega a noi? È considerato un uomo figo, dicono. Bello. D'accordo, vabbè, è d'accordo, sarà bello. Ma devo dire che è un cesso. Molte amiche mi hanno detto è un bel. Allora, diciamo, mettiamola così. Ringrazio. Allora, tra i candidati a sindaco di Roma c'è Alemanno, c'è il signor Marino, c'è lei per adesso, no? Poi c'è quello del 5 Stelle, chissà, sì, magari ne entrerà un altro, eccetera. Si può dire che lei è sicuramente più bello? Si può dire o no? Almeno partiamo da questo dato di fatto. Ma che domanda a me? Sì, si sente il più bello. Si sente il più bello di questi dei candidati. No, assolutamente. Non è, la bellezza è relativa, dirà lei, no? Assolutamente. Lei è molto relativa. Senta, ma mi dica una cosa, qualsiasi sindaco va bene alla fine di maggio purché non sia Alemanno? Adesso, al di là della sua candidatura, secondo lei già sarà un passo avanti se non ci sarà Alemanno? Io credo che la cosa importante adesso, se vogliamo parlare seriamente, è importante. Un po' e un po'. Un misto. Però è una domanda seria questa qua, in realtà. È una domanda un po' delle nostre. Però adesso parleremo nuovamente anche della sua candidatura. Però se non ci sarà Alemanno, questo voglio dire, secondo lei è già un passo avanti? Sicuramente Alemanno è stata una delusione, nel senso che io, pur non avendolo votato, pensavo che potesse essere il Petroselli della destra, e devo dire che invece ha tradito le aspettative di moltissimi, anche di quelli che non l'hanno votato. Cioè uno dei peggiori? Sicuramente ha dovuto gestire una serie, diciamo, lei faceva riferimento a, come dire, alla botta di rabbia che ha avuto l'altro giorno. Sì. Sicuramente come si dice a Roma? Ha sbroccato. Scazzo, come lo chiama? Ha sbroccato, come dice lei, in privato? Ha sbroccato. Sicuramente non ha avuto un'eredità molto semplice, però diciamo che lui ci ha messo del suo. Lei non vuole dire è stato uno dei peggiori sindaci della capitale? Io preferisco parlare in modo costruttivo, cioè io credo che i romani abbiano già dato il loro giudizio molto chiaro, molto netto. Noi romani siamo abbastanza rapidi nel dare valutazioni sintetiche su chi abbiamo di fronte, e poi contano i fatti. Lui ha fatto molte promesse, ahimè le ha tradite, e quindi poi alla fine i risultati sono quelli che contano. Senta, ma per andare sulla politica nazionale, lei lo farebbe un governo? Lei è uno che viene da una famiglia comunista, di sinistra, anche se un imprenditore. Lei lo farebbe un governissimo con Berlusconi in questo momento della storia del paese? Direbbe le due forze maggiori di mettersi d'accordo? No, io credo questo qua, no? Queste elezioni hanno dato, io sono, primo, sono assolutamente contrario a quelli quali dicono che gli italiani non hanno una saggezza politica, anzi, secondo me gli italiani sanno esattamente quello che fanno, hanno chiesto che fosse cambiato il Porcellum, non l'hanno fatto, hanno avuto due anni per non farlo, e quindi gli italiani sono andati a votare con la consapevolezza di un sistema elettorale che non funzionava, e hanno dato, secondo me, in modo inequivocabile quattro risposte. Primo, non hanno voluto che nessuna delle coalizioni fosse in grado di governare da sola. Secondo, hanno dato con il voto di Grillo un voto che non è solamente di protesta, ma anche di partecipazione e voglia dei cittadini. Terzo, secondo me importante, hanno bocciato in pieno la politica economica del governo Monti. E quarto, in ultimo, hanno detto comunque il 25% degli elettori, piaccia o non piaccia, che vogliono Silvio Berlusconi. Cioè, il PDL non esiste, esiste Silvio Berlusconi. Quindi se lei l'ha mai votato? No. Mai, eh? Mai. E mai lo voterà, mai voterà per il centrodestra? O... No, ma lui lo sa, io anni fa un giorno avevo modo di confrontarci su questo, per cui diciamo, lui sa esattamente la mia posizione qual è. E però, comunque, a prescindere da questo, la domanda è, c'è bisogno oggi di un governo PD-PDL secondo lei? Io oggi credo che oggi c'è bisogno di risposte molto rapide, o si fa un governo in grado di dare risposte concrete alle emergenze vere, scusi, sono emergenze... No, ma quello l'ho capito, però PD-PDL deve essere, va bene come governo, lei è un elettore storico della sinistra. Ha votato PD, immagino, no? A queste elezioni. Gli elettori hanno dato una risposta inequivocabile. Io vedo solamente due opzioni, anzi tre. O si fa un governo di coalizione con i 5 Stelle, ma non mi sembra che ci siano le condizioni. O se non lo voglio, col PDL, oppure si vota. Cioè, ma non ce n'è una... Ok, mettiamo che 5 Stelle non si può fare il governo. Anche lei, come Franceschini recentemente e altri esponenti del PD, dice... avanti col, cioè, si può fare un accordo con Berlusconi, no? Non è uno scandalo fare un accordo con Berlusconi. Io dico, noi dobbiamo decidere se vogliamo dare voce e parlare al 25% degli italiani che hanno votato Berlusconi. Ma c'è da fidarsi di quest'uomo, che non è ineleggibile, dunque non è un criminale, ma è uno che rappresenta il 25% degli italiani. Guardi, giusto? Queste elezioni il PDL era morto, questo signore autonomamente, iniziando dall'altro la sua campagna elettorale, non nelle sue reti ma sulle reti concorrenti, ha raccolto il 25%, voglio oppure non voglia, piace oppure no, e io non ho votato mai Berlusconi, e questo è un dato di fatto, per cui se noi vogliamo parlare al paese dobbiamo tener conto del 25% dunque, di questo paese. O 5 Stelle o Berlusconi, oppure si va a votare. Esattamente. Siccome 5 Stelle non si può, lei dice, allora si passi al famoso, quello che veniva chiamato fino a pochi giorni fa, piano B. Abbiamo il traffico, torniamo subito, 800 24 00 24. E siamo qui, caro Parenzo, 18:49, 800 24 00 24, la Zanzara nel giorno dell'incontro Bersani-Berlusconi con uno dei candidati a sindaco di Roma, elezioni il prossimo maggio, Alfio Marchini, imprenditore, famiglia di sinistra, si presenta con una lista civica. Le piacerebbe un nome nella sua lista che ha già in mente? Ci dia una notizia, Marchini, un nome di persona conosciuta, prestigiosa, importante. Io detto, siccome uno dei temi importanti anche rispetto alla mia storia è quella del consumo del territorio zero, e tutti quanti dicono costruzione buffa, io sono dell'idea che il suolo non debba essere più consumato. Noi abbiamo in mente di fare un authority che vigili su beni culturali, beni ambientali, paesaggisti e agricoltura. Io ho chiesto il nome di una la persona è Gian Maria Flick, è un costituzionista, come no, ex ministro della giustizia, eccetera. Dunque lei nella sua lista civica ci sarà Giovanni Maria Flick, questo si può dire? No, io non so lista civica, io credo che sia importante prima piuttosto che i candidati le funzioni di governo di questa città. Questa è una città che deve essere governata piuttosto che fare... Lo sai Parenzo che si è scatenato su Twitter una cosa che si chiama "se Arfio diventa sindaco". Geniale, io trovo straordinario. Che è stata anche ironica, meravigliosa. È una cosa ironica, devo dire, molto molto carina, giocando sul nome Arfio, che è incarna un po' il romano popolare, e anche alcune caratteristiche che vengono attribuite a Marchini, che è quello di essere appunto un personaggio capolo della Roma bene, anche se poi non appartiene a quello che viene chiamato il generone romano. Io leggo una cosa: se Arfio diventa sindaco, Roma diventa una smart city, nel senso che se potrà girare solo con le smart. Se Arfio diventa sindaco, la parchetta, tutto il raccordo anulare. Se Arfio diventa sindaco, il Marco Aurelio e daglie con la statua del sindaco che gioca a polo, mi pare pure giù, eccetera eccetera. Stupendo. Qual è champagne, la sua preferita? Qual è? Ce ne sono molto. Uno, Coppa America, America's Cup sul Tevere, e poi ce ne sono una quantità straordinaria. Ma io voglio chiedere al compagno Arfio, voglio chiedere, ma compagno è una bella cosa, lei chiama ancora qualcuno compagno? Sì, in famiglia sicuro. Eh? No, in famiglia, che c'è? In famiglia chiamerà con i nomi e cognomi, ma come no? Compagno, i comunisti, papà, i comunisti erano una roba seria, lo so. Seria. Il dramma che c'è alla sinistra è che non c'è più comunisti, questa è la verità. Addirittura. Non avrebbero fatto delle primarie così come hanno fatto a Roma. No, ma addirittura meglio i comunisti di quelle della sinistra di oggi? Assolutamente sì, perché almeno erano, non si sarebbero mai ridotti a fare delle primarie per il sindaco, certo, a un mese dalle elezioni, sotto Pasqua, con una settimana, certo, di campagna elettorale. Lei che avrebbe votato? Con i Rom, se... Rom che votano per giunta. Ah, ma è vera sta roba dei Rom, secondo lei, Marchini? Ma io non lo so, sicuramente il fatto che un altro dirigente del partito denunci che siano state Rom che votano sotto pagamento, già questo la dice lunga sulla nostalgia dei veri comunisti che ci stanno nella sinistra. Io non ho mai votato il Partito Comunista, ma ho sempre considerato i comunisti gente seria. Ma secondo te molte donne, Parenzo, voteranno per Marchini? O no? Oppure le donne se ne fregano dell'aspetto? Dovrebbe fare dei ora ho visto solo manifesti senza il sindaco di Lecce lo fece. Il sindaco di Lecce, che poi diventò sindaco di Lecce, oggi è il sindaco più amato d'Italia secondo l'ultimo sondaggio del Sole 24 Ore, fece un manifesto in cui praticamente invitava le donne a votarlo. Caro Marchini, si tiene una mossa pure lei da questo? No, ma guarda, c'è una grande querela sul fatto che io ho scelto di fare una campagna senza mettere la facciona, eccetera, eccetera. E molte persone dicono: no, guarda che bisogna che ce la metti. Ancora resisto, non so se riuscirò a resistere fino alla fine. Ecco, alla fine la mette. Però la faccia. Voglio dire, alla fine la mette. Nel caso dovesse perdere, e ciò non avverrà, ovviamente, cioè, ma lei è pronto a collaborare, che so io, col signor Ignazio Marino? No, ecco, tra Marino, metteci fuori, vabbè, con Alemanno vado, la do per scontata, no? Ballottaggio Marino, Alemanno, lei chi vota? Ovviamente è ovvio. Marino. Certo. Marino è uno dei 5 Stelle, chi vota? Questo De Vito, non so come si chiama. No, sicuramente, guarda, io... Marino, appoggerà in ogni caso, se lei resta fuori dal ballottaggio, appoggerà Marino. Marino, io oggettivamente non trovo che Marino sia il candidato ideale per Roma, anzi... Cioè, dice di estrema sinistra, come dicono? No, a parte che è una persona intelligente, preparata, in tutto non è un romano. E il paradosso è che io sono l'unico candidato romano... No, infatti questo è curioso, ma perché la sinistra candida attraverso le primarie uno che è di Genova, di madre, credo... Esatto. Vabbè, medico quello che c'entra, però. No, ma nel senso invece c'entra come? Perché Roma penso che abbia bisogno di essere governata in modo. Guardi, adesso Alemanno. Fa il medico, però fa politica dal 2006, è entrato in Parlamento. Sì, ma ha bisogno. Questa Roma ha bisogno di essere amministrata e gestita. Roma ha bisogno di essere. C'è un medico governata. Incapace di gestire una città, secondo lei? Non ha le competenze. Secondo me, oggi a Roma c'è la necessità di un'operazione di rottura e di riorganizzare il mondo di governare. Vabbè, è di Roma. Genova. La madre è, credo, svizzera. Il padre è siciliano. Su un sacco di anni in America, lei è romano, ma perché il PD non ha candidato direttamente lei? Scusi, ha candidato, poi ci sono state le primarie, eccetera. Vuole che le rispondo seriamente o in modo ironico? No, ironico. Ironico perché... No, invece mi rispondo a metà. Vabbè, ho capito, a metà. Perché... No. Io credo perché quando io denuncio che è la necessità di fare un'operazione di rottura e questa città è stata governata da un consociativismo dove allora? Sinistra e destra hanno ridistribuito al loro interno pezzi di... Ha scontentato un po' di persone. Perché? No, dico, lei ha scontentato un po' di persone. Dico. Contenterò sicuramente moltissime persone. Perché vede, a Roma, quando ci sono dei consiglieri comunali che sono dipendenti delle municipalizzate, che sono gli organi che loro dovrebbero controllare, ma lei capisce che non ha senso. Ma lei è ingiusto dire che... Lei, siccome è molto ricco, la ricchezza non è... Vabbè, è molto ricco. Come no, Marchini? È ricco. Berlusconi è molto ricco, io sono male. Mediamente ricco, diciamo. Diciamo, lei rinuncerà allo stipendio se sarà eletto sindaco? Penso che vorrei ovvio, comodi ovvio. Aggiusti, diciamo, oggi il comune faccio di un annuncio, se divento sindaco rinuncio allo stipendio. Ma sì, ma non è quello il tema. Ma è il tema, sì o no, beh, intanto. Ma ovvio che sì, ovvio che sì, ma però il tema non è quello, vede, il tema è che Roma ha un disavanzo tra entrate e uscite. Vabbè, adesso però non parliamo di Roma, perché Roma, sennò altrimenti la gente... Ha ragione, ok. Sennò dice ma che succede. Ma oggi come è andato l'incontro tra Bersani? Ancora non ci sono notizie fresche. Un buon incontro. Scusi, ma Totti, lei è molto tifoso Roma, Totti voterà per lei, signor Marchini? Se non vota per me lo prenderò fisicamente, lo rapirò. No, ma prima. Si parla di un piccolo endorse, è possibile che voti per lei? Adesso l'importante adesso il pupone si deve concentrare a giocare a Roma e cercare di lo prenderebbe come consulente lo abbiamo avuto ieri. Lo prenderebbe come consulente per lo sport? Chi? Totti? Totti. Come vice sindaco tutta la vita. Come vice sindaco addirittura. Vice sindaco con delega alla cultura. Non c'è vice sindaco della cultura, dai, su. Zanzara! Io prima di tutto voglio osservare come un comportamento così, mi spiace per gli amici che sono tanto bravi della Zanzara, è un comportamento indegno, sbagliatissimo. Perché? Perché? Con quella che Enrico Palme sono certo definirà una mascalzonata. Una mascalzonata, vedi che ti reato, conosco. Che io spero verrà perseguito. Temo perché non sia un reato, ma il tema no, forse è assolutamente altro. Sostituzione di persone. E va bene, ecco, poi ci parliamo. Se non vuoi mettermi intorno. Credo che sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. Le manette, ci vogliono con le manette, caro Parenzo, con le manette sai, sai che tra tutti questi audio che hai fatto giustamente sentire ce n'è uno che diciamo mi fa tremare le vene ai polsi, uno solo, degli altri me ne fotto uno a uno. E chi è? Chi me è? Ne fotto. Soltanto quando il signor Squinzi dice, dà quel giudizio così, allora lì forse un po' c'è da pensare. Chiediamo scusa, Squinzi. Credo che scusa sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. No, è la sottolineatura di molto cattivo gusto. Perché molto, due perché volte che potuto dire, no, di cattivo gusto. No, è ha di voluto, cattivo gusto. Ha voluto calcare così, molto è cattivo molto gusto. Molto di cattivo gusto, pausa, molto. Ma che molto cattivo gusto. Le manette, siamo qui con le manette, ma c'è libertà di scherzo radiofonico, non ci rompete le scatole. Li fanno in tutto il mondo e li hanno fatti in tutto il mondo, adesso perché è stato colpito il signor Onida, per carità, lo abbracciamo fortissimo, ex presidente della Consulta e indirettamente anche Napolitano, ci rompete le scatole. Hanno toccato politici francesi, molto importanti, Sarkozy, la Palin, l'abbiamo già detto, tantissime altre persone. Quando abbiamo toccato Cosentino, Cosentino, siete stati tutti zitti perché era Cosentino. Vergogna! Titoli del TG3, non mi fate incazzare, dai. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Faccia a faccia fra Bersani e Berlusconi per discutere come affrontare i principali nodi politici, a cominciare dall'elezione del Presidente della Repubblica. Le posizioni restano distanti. Il leader PD, soluzione condivisa sul Colle, ma nessuno scambio, no al governissimo. Il PDL insiste, serve un patto politico. Le Camere rinviano la formazione delle commissioni, prima ci vuole il governo. Grillo grida al golpe e i parlamentari 5 Stelle occupano le aule. L'Istat, famiglie senza soldi, crollano potere d'acquisto e risparmi, calano redditi e consumi e a Torino fiomi in piazza contro i licenziamenti. Ho ucciso io Lea Garofalo, confessa in aula l'ex compagno della testimone di giustizia uccisa nel 2009, del suo corpo venne fatto scempio. Non andavano in ufficio ma si facevano timbrare il badge da colleghi compiacenti, arrestati a Reggio Calabria 17 impiegati del comune, altri 78 indagati per assenteismo. C'è il cordoglio del mondo per la morte di Margaret Thatcher, ma gli oppositori delle sue dure politiche economiche e sociali festeggiano apertamente. No, queste cose mi fanno talmente andare in bestia che io voglio a questo punto riabilitare addirittura Maccari, l'ex direttore del TG1, e perfino Cosentino, guarda. Perché al confronto di alcuni che hanno reagito a questo scherzo nei confronti di Onida, sono dei signori, sono dei signori. Sì, lo dico, anche Cosentino che è in galera è un signore. Anche al confronto di alcuni che hanno reagito, Cosentino è un signore. No, ma poi soprattutto anche cioè Cosentino, Bossi, quando tu l'hai incontrato, dimmi quando l'hai incontrato Cosentino, che cosa ti ha detto? Dimmi quando l'hai incontrato alla Camera, ma cosa no, ti disse Cosentino? Sì, ma sì, adesso devo dirlo anch'io, mi dispiace, mi duole. Si è messo a ridere, ha detto siete i soliti che fate le marachelle, Parenzo, i soliti, ma bravo, mi saluti il suo collega, ma rideva. Ma anche Bossi stesso, ma voglio dire, ma come si deve sentire uno? Ed è un'imitazione politicamente scorretta, perché Bossi è stato anche malato, ma non ha detto un cazzo. Anche Bossi non ha detto nulla, che è stato imitato, svillaneggiato da me, non so se ero io, adesso devo capire se ero io perché sono un po' sdoppiato, alle volte mi sdoppio, non capisco più un caso. Però è così, anche Bossi voglio abbracciare fortissimo, e anche il Trotta, il signor Trotta. Sì, ma al confronto, ripeto, se mettiamo a confronto le reazioni di alcune persone e questi signori qui di cui abbiamo parlato, Bossi, Cosentino, eccetera, no, li metto su un piedistallo, cioè, e comincio anche la statua. Purtroppo è così. purtroppo è dai, così. Su. E Soloni della sinistra che mi chiamavano per fare i complimenti sulla questione di Cosentino. Soloni. Senti, della sinistra. Ascolta questa cosa qui, la tua amica Mura dell'Italia dei Valori, di quella che fu l'Italia dei Valori, che ancora esiste formalmente, sì, perché piazza i sordi, tra l'altro esiste per conservare il quattrino, però lasciamo perdere. Beh, dice: mio figlio è disoccupato, io non arrivo alla fine del mese, come se la cosa dovesse interessarci. Adesso, per carità, lo dico con grande rispetto, però a noi che cosa ce ne importa? Scusi, signora Mura, che lei è stata parlamentare per non so quante legislature. Dice: suo figlio è disoccupato, vabbè, ci sono tanti disoccupati. E poi io non arrivo alla fine del mese. E vabbè, lei non arriva alla fine del mese, per quale motivo? E poi paga ancora 4 milioni a un partito che oggi c'è, non c'è. Non lei sta parlando con una tesoreria nazionale che ha un figlio disoccupato, come la mettiamo? È una madre che non ce la fa arrivare fino al mese. Il suo figlio disoccupato non può dire. Siamo qui, 800 24 00 24, ancora, ma è rimasto con noi, una cosa pazzesca, sì. Alfio Marchini, candidato sindaco a Roma, non nell'ultima città. Io vorrei fare una... Che una... succede, Marchini, che succede? Allora, visto che vi licenzeranno... Esatto, sì. No, avendo ascoltato una capacità oratoria straordinaria... La nominerò assessore alla propaganda, straordinario. Beh, sono già a posto. Ti do asilo. Sì, purtroppo è molto difficile le passare in giro. Però hai visto mai il traffico, se fosse possibile. Ah, tu la delega al traffico? Perché no, non avendo la patente, voglio, la mia idea sarebbe quella di rendere far girare Roma solo con quei calessi meravigliosi, con le crozzelle, solo no, quello vorrei. Poveri cavalli, in inferno. Vabbè, insomma, Marchini ha già detto una cosa fondamentale, che rinuncia allo stipendio da sindaco se sarà eletto sindaco. Questo diciamolo proprio a chiare lettere, non prenderò lo stipendio. Ma non voglio fare neanche la facile demagogia. Dei problemi seri che bisogna dare risposte. Scusi un attimo, a proposito di problemi seri, però quella domanda iniziale di Parenzo, che è un po' cattivello e voleva puntare soprattutto sulla sua bellezza, eccetera. Secondo allora, me lei a proposito di questo, lei assomiglia più a Riggio o a Pierce Brosnan? Allora, a proposito di questo, la prendo in contropiede e le leggo un tweet, visto che lei ha citato il tweet, che mi ha mandato un certo Johnny Palomba. Il titolo è Un programma due piacioni. Un programma due piacioni, chi sarebbe il piacione? Io e lei? Mi sa di sì, Vabbè, ho capito, che c'entra? Adesso io mica mi candido a sindaco io, però. Lo so, però non la posso manco votare perché è 13 anni che abito a Milano. Per ma cui... chi rimorchia di più, Marchini o Cruciani? Cruciani 6-0 facile vince. Non è vero, assolutamente non è così. Ci metto la mano sul fuoco e non è così. No, io sono un semplice ragazzo di bottega. Ma che ragazzo di bottega? Ma quando mai? 5 figli, adesso single, danaroso. No, non single, mettiamo in chiaro. È fidanzato? No, mi crei problemi drammatici. È fidanzato? È una compagna che c'ha? Certo. La compagna, ma niente. Ma anche lei va a Voile e a Vator. No, come chiede che c'è a Voile, no, quello non lo chiedo. Sta. Cruciani lo chiede sempre. Non lo chiedo perché è l'eterosessuale. È così simpatico. L'eterosessuale, il signor Marchini, a prova di bomba, mi sembra di capire. No, no, questo sì, sicuramente. Questo sicuramente. Senta, ma lei lo farebbe un registro per le coppie gay al Comune di Roma? Io credo che sia... Io uso uno slogan molto efficace, cito Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi, quindi trovo che bravo. Secondo me è importantissimo, vabbè, che, che è una frase non banale, che è una frase no, che assolutamente, ma sto registro lo farebbe o no, a prescindere dalla legge, lei è a favore dei matrimoni gay? No, io credo che il registro sia una cosa, io credo che due persone che si amano e che vogliono avere un riconoscimento civile, credo che non sia assolutamente scandaloso dargli questa opportunità, anzi sia un diritto dovere. E dunque il registro lei lo farebbe se fosse sindaco? Un registro? Il registro certo. Ah, registro per le coppie. No, perché a Roma, sa, non è che proprio sia così scontato vicino nella io no? Credo che sia. Sì, però guarda, insomma, io sono contro l'ipocrisia. Due giusto? Persone no, che si ma... vogliono bene possono... Applauso per il registro delle coppie gay con Alfio Sindaco. Datemi l'applauso finto. È finto, ma datemelo lo stesso. Non c'è, vabbè, su, e dai. Cioè, ce l'abbiamo sempre pronto, adesso che c'è Marchini. Allora, scusi un attimo però, lei, che viene da una tradizione di sinistra, non è del 65, lei che anno è? Sì, 65, primo aprile, scherzo d'aprile. Ti rendi conto, Parenzo, che... E Marchini è solamente un anno più vecchio di me? Solamente me un anno meglio di te, però. No, beh, adesso questo siamo me l'hanno detto molte donne. Dice, sì, ma come molte donne? È fidanzato da anni, lo stai. No, non è no, così. Però io sono sicuro: anno 65, tradizione di sinistra, lei qualche canna se l'è fatta. No, sai che no, ma sai perché? La più bella battuta, me lo dico, mi sono una mia fidanzata di quando ero molto giovane, non ho mai usato droghe, e mi disse, sai perché? Perché io sono già ipereccitato di mio, per cui se ci metto sopra anche la droga diventerebbe una cosa molto pericolosa. In che senso cui... sei supereccitato di suo? Scusa. Perché sì, perché c'è una quantità di adrenalina nel sangue. Molta adrenalina, Sì. Lei ha letto, mi sa che deve essere... Vabbè, lasciamo perdere. No, no, no, adesso... No, è bene, bene, hai ragione, ragione. No, io ogni tanto mi prende la cosa così, mi prende la vena della cosa sessuale, così. Perché il mio prossimo step, lo sa qual è il mio prossimo step? È in realtà condurre una trasmissione porno. Voglio fare hot radio di notte, hot radio, e parlare solo di sesso, hot radio, una cosa stupenda, dalle 24 in poi, hot radio. Adesso questa non riguarda Marchini ovviamente, riguarda me, hot radio. Parenzo, facciamo insieme hot radio? Sì, io non sono così esperto come te di alcuni settori della Voile però no, che c'entra Voile? Occhio che stiamo degenerando, Sì, no, Voile non c'entra che... adesso, questo è un colloquio. È giusto che il signor Marchini sappia. Senta, lei sa cantare, signor Marchini? No, un disastro, stonato come una campana. Stonato, adesso lei fa finta di essere stonato. No, è vero, è una delle poche cose per cui provo invidia è per la gente che è intonata. Canto una roba micidiale. Sì, micidiale. Vabbè, comunque, lei assomiglia più a Riggio o a Pierce Brosnan? Che le dicono? Assomiglio più a chi? A Riggio o Pierce Brosnan? Mi hanno detto che di profilo un po' Pierce Brosnan. Comunque lei è un cultore dell'esteta, ha ragione. Abbastanza, sì. Ha ragione Johnny Palomba, allora. Ah, Johnny Palomba, lei consulta questi qua che sui... No, sono loro che mi hanno preso in giro con la cosa Arfio Sindaco. Per cui li ho conosciuti via Twitter, non ho mai avuto la possibilità... Sarà la sua carta vincente. Va bene, grazie Alfio Martini, candidato sindaco di Roma. A presto. Ricordate che vi do sempre asilo. Torni prima, torni prima delle elezioni. E vi do asilo in qualsiasi momento. Torni prima delle elezioni, Marchi. In bocca al lupo. A presto. Ma tu l'hai capita questa puttanata di Parenzo? Questa grande puttanata dell'occupazione delle camere da parte dei 5 Stelle? L'hai capito o no? Guarda, ti sembrerà strano, ma questa volta è l'unica volta che sono d'accordo con loro, invece, sinceramente, davvero. Perché? Perché la protesta non è sbagliata, cioè a dire che le commissioni si possono fare indipendente, se lasciamo no, ma quello, ma quello è d'accordo, ma quello sono d'accordo pure io. Non hanno occupato un bel nulla. Questa volta bisogna essere, sai quanto mi stanno sulle balle Casaleggio, il signor Grillo, tutta questa roba, tutta questa idea loro mi fa sulle balle da morire. La rete, eccetera. Però per la prima volta hanno fatto una cosa invece molto parlamentare, molto politica. No, ma l'occupazione che vuol dire l'occupazione? Bellissimo. Beh, l'hanno fatto i radicali anche nel passato. Importante che si ricordino di spegnere l'interruttore. Ma no, infatti vanno via a mezzogiorno, a mezzanotte, scusa, 01:00. Appunto, 01:00. Chiudere la luce, chiudere il portone, no, tirare bello, dietro la porta. Va bene, questo va bene perché sono istituzioni democratiche, è bello che loro... Senti quest'altro invece, Francesco Campanella, che è stato oggetto di un nostro scherzo, te lo ricordi? Il senatore 5 Stelle che dice, a furia di tagliare qui ci rimettiamo. Ho calcolato che in dodicesimi prendevo 2732 euro, francamente non vorrei rimetterci. Campanella, io dico Campanella, amico mio Campanella, l'avete detto in campagna elettorale che non ve ne fregava niente dello stipendio, che eravate lì per fare un servizio al paese, che i deputati devono guadagnano troppo, che bisogna tagliare lo stipendio, restituire, in Sicilia avete fatto questa sceneggiata, adesso ci viene a dire che ho calcolato che in dodicesimi prendevo 2732 euro, francamente non vorrei rimetterci. Campanella, adesso avete deciso invece che vanno bene 6.000 euro? Solo adesso avete deciso? È finita! È finita! È finita! Ciao, io esco, dove vai? Franceschini prima, Dario Franceschini, ex capogruppo alla Camera del Partito Democratico, Franceschini prima e Franceschini dopo su Berlusconi, perché alcune cose vanno anche scoperte. Franceschini prima. Berlusconi si proclama perseguitato e innocente, allora vada a difendersi davanti ai giudici come tutte le persone che non hanno nulla da nascondere e risparmi al suo paese la figura di fronte al mondo di un presidente del Consiglio processato per prostituzione minorile e concussione. Franceschini oggi. E se gli elettori hanno deciso che la destra italiana per la sesta volta, mi pare, è ancora guidata da Berlusconi, a noi può piacere o non piacere, conosciamo tutte le sue vicende personali, giudiziarie, le conosciamo tutte, ma lì l'hanno messo gli elettori e quindi non è che è un orrore parlare con... che questa è la democrazia. Il giorno in cui gli elettori di destra sceglieranno un altro leader, magari più simile alle leadership europee. Qui c'è Berlusconi, c'è la Lega. Sì. Con quindi loro bisogna discutere, non è che ci si sporca le mani, è un atto di presunzione. Sì. Claudio da Pisa, buonasera, 800 24 00 24. Claudio, buonasera. Vada. Devo dire che personalmente non ho nessuna stima per Sgarbi, no? Sì. Ma questa volta penso che sia difficile contestare la sua dichiarazione. Ma su che cosa? Scusi, sui suicidi al governo, non ho capito. Sì, suicidi. Ma dai, su, ma come si fa a fare? Come si fa a fare la contabilità dei suicidi attribuendoli a Monti e alla Fornero? Dai, è ridicolo, dai. Senta, dottor Cruciani, se nel caso di suicidi, per dire, come i imprenditori che sono stati stroncati dal mercato o dipendenti che si sono trovati disoccupati per chiusure, delocalizzazioni, fallimenti o via dicendo, si può parlare di vittime della crisi economica. E invece? Ma in questo caso assolutamente no, perché persone dell'età del muratore suicida che hanno perso il lavoro a quell'età, 63 anni, per età anagrafica e contributi avrebbero potuto trovare salvezza nella pensione. Un diritto che non è più concesso grazie proprio al governo Monti e alla sua ministra. Ora, naturalmente, poi la responsabilità si allarga ai partiti che hanno votato questa... Claudio, è comunque una stupidaggine attribuire gesti estremi a alle politiche di un governo. Mi sembra veramente una follia. Grazie. Francesca da Varese, buonasera. Ah, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io volevo tornare sullo scherzo, pacatamente, sì, serenamente. No, anche pagatamente, perché pagatamente qui non c'è. Perché ieri sera lei ha rimarcato ancora il discorso che per minimizzare e per... No, minimizzare per niente, io non minimizzo nulla. No, il paragone dello scherzo con la Paline che fu chiamata dal finto Sarkozy, che certo, però non è appropriato. Perché non è appropriato, mi dica. Glielo spiego, se mi dà un secondo. Come no, vada. Anche allora, naturalmente, si trattava di un esponente importante nella corsa alle presidenziali, allora? Ma niente che sia paragonabile alla situazione che viviamo attualmente dopo l'esito incerto. Ma che c'entra elezioni. Questo? Ma non è che gli scherzi si fanno o non si mi fanno a seconda dire. Delle situazioni poi, politiche? Scusi, poi, Francesca. No, abbia sentito. Pazienza. Lei sostiene. No, scusi, ascolti. Adesso finire, poi argomenti. No, ma adesso la lascio finire. Lei dice che uno scherzo si può fare o no a seconda della situazione politica. Se c'è una situazione politica... Non ho finito di elaborare. Elaborato. Ascolti. Elaborato è una parola un po' grossa. Non c'è da elaborare. Vabbè, comunque, vada. Ho sentito giudizi pesanti contro quelli che lei definisce quelli del solito giro. Vabbè, cioè, ma è un modo Ferra, di dire. Ma è un modo di dire. Ferra, Zambardino, Vaime soprattutto. Ma no, Zambardino non lo conosce nessuno. Zambardino non lo conosce nessuno. Vaime è un altro discorso. Quelli del solito lei giro. Lei non lo conosce perché non segue Repubblica. Io ma può darsi, sì, lo conosco di nome. Ma chi lo conosce Zambardino? Ma non... Lei continui a leggere chi che va bene. Ascolti. Ma io non ho mai letto chi in vita mia. E quando lo leggo con piacere. Lo leggo con piacere perché ascolti. Mi fa ridere. Vedo delle notizie. Il filo, perché sennò non capisce un cazzo nessuno. Allora, ascolti, appunto, per averla criticata di esserci andato pesante con Onida, no? E ieri sera, giustamente, ha avuto lei parole anche abbastanza così, un tono un po' di sufficienza per quello che ha detto il suo capo Squinzi, no? Che naturalmente non poteva che dire quello. Allora, se davvero si è trattato solo di uno scherzo innocuo, non ho sentito nessuno che abbia criticato quegli avvoltoi del centrodestra, no? Di aver esagerato per aver addirittura chiesto le dimissioni di Onida, dopo che sto povero uomo, tra ma l'altro, che c'entra? Ma quello fa parte, si quello è dovuto fa... umiliare. Si è dovuto umiliare, scusi, a chiedere scusa a Berlusconi, no? Ma quello è un altro discorso. Quelle sono le reazioni. Ho capito, scusi, Tifani. Francesca, la politica è fatta così. Se uno provoca se uno dice delle cose, estorte o meno che siano, ci sono delle reazioni politiche. È normale che il centrodestra abbia reagito su questa cosa qua. Cioè, mi sarei stupito se non fosse accaduta una cosa di questo tipo. Comunque, guardi. Se la Palin ci ha riso sopra dicendo se la vi, come lei ha detto, no? Sì. E forse anche perché lo scherzo riguardava personalmente lei, la sua pazza passione per la caccia, e no? Allora? E il fatto e che... allora? Ecco, e allora? E quindi il fatto che nessuno abbia chiesto le dimissioni della Palin per lo scherzo. Vabbè, ma a parte che non è vero chiesto. Perché c'è stata, in quel momento no, c'è stato uno scontro forte anche comunque, tra lo staff di McCain e la Palin. Comunque... Lei ha fatto un paragone che non stava in piedi. Ma come non stava in piedi? Sta in piedi, sì, come se non sta in piedi? Il suo amico Becchi, lei che ieri rideva del PD che organizza la manifestazione per la povertà, il suo amico Becchi l'ha letto il tweet che ha scritto: la situazione di stallo, bisogna rivolgersi al Presidente della Repubblica e convocare una manifestazione a difesa della democrazia. Che ridere il suo amico Becchi. Grazie Francesca, grazie. Grazie. Credo che sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. Molto cattivo gusto, eh. Fabio D'Arieti, buonasera, molto cattivo, sei preoccupatissimo. Parenzo è preoccupatissimo, Fabio, dica. Sì, dica. Sì, vada. Molto di cattivo. Senta, Lucia, hai tre cose più veloci. Sì. Posso? Dica, vada. Veloce, allora. Allora, la prima, io ieri sera, l'altra sera, stavo vedendo la trasmissione 11, dove lei stava... Vabbè, quello che c'entra adesso? Parliamo di cose, sì, di politica, no, su, no, Fabio, no, dai. Che politica, parlo di questo. No, io, lei parla di politica. No, è un consiglio veloce. Vabbè, avanti, mi insulti, su, mi dica qualcosa, no, si pettini i capelli, si tagli i capelli, dica una stupidaggine del genere, su. Io, Cruciani, tu sei un uomo di mondo, Cruciani. Lo dica avanti, glielo lascio dire, guarda. Mia moglie lo diceva. Sua moglie, vabbè, ma sa quanto me ne frega a me di sua moglie. Cruciani, ti do un attimo del tu, non te devi far vedere in televisione, Cruciani. Sì, va bene, d'accordo. Hai una bella voce, stai alla radio, Cruciani. La seconda, una seconda veloce. Sì, poi? Questo è di politica. Che poveraccio scherzo. Questo, dica. Ma come un poveraccio? Un po' sì, dai. Dai. Non ti rincazzare, Cruciani, su, e stacce. Ma infatti ci sto, tranquillamente, dica. Io l'ha detto mia moglie. Pazienza, sua moglie. Ma dopo, più tardi, adesso c'è un ospite, più tardi, su, più tardi. Sì, ma... vabbè, più tardi. La seconda, allora, senti, sì. La cosa veloce, la seconda. Veloce però, Sullo scherzo, a parte che ci avete no ragione, di più. E quello che ha detto chiaramente è quello che pensano tutti, non serve un cazzo questo, lo pensano tutti. Giusto, poi? Poi? Come? Allora? No, volevo sapere, visto che a Radio Rai il dottor Forbice, Forbice è stato mandato via per molto meno. È stato mandato via perché era in pensione ed era tempo che andasse via. È stato mandato in pensione, era già in pensione, doveva andare via ed era tempo che andasse via. Ma è con noi, il nostro mito numero uno, caro Parenzo, il mito numero uno in assoluto. Per me dovrebbe fare, secondo te che cosa potrebbe fare? Tu lo sai che è il mio mito numero uno, no? Tu lo sai che, no, che te ne parlo ogni giorno. Non sia solito bevitore di urina che interpelli quotidianamente. È diventato il numero tre tra i sindaci più amati secondo la classifica del Sole 24 Ore. Prima era il numero uno, è sceso, è normale, dopo tanti anni uno non è che può essere sempre il primo, altrimenti gli altri sono pure un po' invidiosi, possono pensare queste classifiche sono manipolate, no? Cioè, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, Partito Democratico, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? È sempre sul podio lei, De Luca, sempre sul podio, però numero tre, vabbè, ci si può stare, no? Siamo sempre con le medaglie, ma sempre più disperati e previsori. Sempre carichi di gloria, non arriva manco un euro. Da questo punto di vista non è cambiato niente. Fatevi dire subito che siete delle carogne. Perché? Che abbiamo fatto? Ho ascoltato quella carognata che avete fatto al povero Unita. Ma come carognata? Chi è che faceva l'imitatore? Era perfetto, la voce di Margherita Hack, ma neanche la madre avrebbe... È vero. Ma perché dica una carognata? La verità, che ha riso come un matto. Sì, De Luca, su, mi dica la verità, dai, su. L'imitazione era splendida, via. Il poverino di Valerio, ma stava così bello, la mannaggia. Vabbè. Però anche lei... Ma non ci crede neanche lei. Ma anche lei, dai, su. Si sa che non servono a nulla, De Luca, su, dai, diciamola tutta. Sindaco, dai. Guardi, in questo momento noi dobbiamo fare una scelta. O decidiamo di fare qualche rapida considerazione un po' sulle cose serie, oppure seguiamo l'onda. Godiamo il cabaret. Seguiamo l'onda. I saggi servono oppure la dico io in maniera secca, caro De Luca, non servono a un cazzo. La gente pensa questa. I camionisti che ci stanno ascoltando, il popolo d'Italia che ci ascolta numerosissimo la sera, tassisti, camionisti da tutta Italia, anche da Salerno ci scrivono quando interviene lei. Pensano questo, che i saggi non servono a nulla. Diciamo, dire che servano a moltissimo sarebbe un'audacia. Però ripeto, noi possiamo mettere pure i saggi nelle varie scene che possiamo contemplare in questo momento, perché abbiamo tre o quattro cose che sono veramente di cabaret splendide. Cioè, per esempio? L'incontro con 5 Stelle lì alla tavola, questi che occupano Montecitorio. Ah, ecco, la riunione dei 5 Stelle nell'agriturismo, sono cose bellissime, ma diciamo la verità. Ma chi avrebbe mai immaginato di poter godere questo spettacolo? Possiamo cominciare dai 5 Stelle? Sì. Io avevo veramente creduto che questi fossero andati a Roma per cambiare l'Italia. Ho visto che sono andati a Roma per cambiare aria. Sono andati all'agroturismo, hanno fatto una bella scampagnata, picnic, cose a pazzo. Adesso stasera stanno occupando le camere. Sì. Mi era venuto un pensiero maligno. Qual era? E di chiuderli dentro. Ah, dici chiudiamoli dentro. Lasciate in là tutta la nottata, poi gli portate le merendine domani mattina. Rimi. Ma questi magari... Hanno notato, voi che siete dei maligni, sì, delle carogne, hanno notato la somiglianza impressionante di Crimi con il procione lavatore. Ah, vero? Guarda, voi non ci crederete, è una cosa incredibile. Vabbè, comunque, equilibrare possiamo dire che pure avversante PD via quella cosa che... della tavolata lì, con la consultazione 5 Stelle, Vabbè, quello lei già ha dato, il top lì, lì già, lei... Come gli è venuta quella cosa lì, vada a morire ammazzata, quella che è stata, quella ormai è diventata una cosa culto, lei lo sa, no? Ma va a morire ammazzata e vattene. La verità, mi è venuta così, si è pentito, sono toni, no? Di natura, diciamo. Per la verità io guardavo quel tavolo un po', un tavolo d'osteria, pensavo che arrivasse un po', un po' di trippa romana, ma come si fa a fare una cosa del genere? Mettiamola così, via, perché... Scusi. Che dobbiamo parlare? Siamo tutti in attesa dell'elezione al Presidente della Repubblica. Ecco, lei chi metterebbe lì al Quirinale, caro De Luca, se lei dovesse decidere da solo, chi metterebbe nello scranno più alto? E le pare che io, così carico di medaglie e così privo di soldi e disperato, mi metto pure a fare il Toto Presidente della Repubblica? Vabbè, perché no? Mi auguro che sia una personalità seria al di là di tutto, perché il capo dello Stato è il capo dello Stato, che abbia... Ecco, ma se Grillo capo dello Stato, cosa accadrebbe in Italia con Grillo capo dello Stato? Ecco. Niente, apriamo un altro teatro e completiamo il cabaret. facciamo l'atto finale. Ma lei lo sa che vogliono sceglierlo attraverso internet, no? Questa consultazione via internet per avere il loro candidato. È un'altra grande palla, e prima ci decidiamo a dire che questa cosa di internet, la rete, la consultazione, la democrazia, ma quante palle, quante imbecillità, ma quando la finiamo? Questi continuano. Ma veramente pensiamo che si possa governare un grande paese sulla base di queste cose? No, allora facciamola finita. No, a me lo dice. Io apprezzo molto questa spinta alla rottura, questa espressione di disprezzo per una politica che non decide mai niente, questo lo apprezzo ai 5 Stelle, però basta con il cabaret, facciamola finita. Scusi un attimo, però... Abbiamo veramente la gente che si uccide. Sì. Io sono stato malissimo, credo come tutti, sulla vicenda di quella coppia di anziani che si è uccisa. Però alcuni danno la colpa alla Fornero, pure quelli della CGL, caro De Luca, dica qualcosa. Ma dai, colpa alla Fornero, veramente una situazione drammatica, quindi avremmo bisogno di veramente di decisioni. Ecco, a proposito di decisioni, Bersani oggi ha incontrato Berlusconi, poi naturalmente adesso non si sa nulla, dicono delle cose generiche, no a governissimo. Lei, che è una persona pratica, pragmatica, come tutti i sindaci d'Italia, perché alla fine sono i sindaci quelli che fanno l'Italia in questo momento, diciamola tutta, Parenzo. Allora, sono quelli che tengono in piedi la baracca, questo è il punto fondamentale. Allora, lei, forse per lei, farebbe subito l'accordo con Berlusconi, inutile, senza troppe 5-6 mesi, fare due cose e poi tornare a votare. Dica qualcosa. Non lo so, in un paese normale si sarebbe fatto, ma l'Italia non è un paese normale. Devo dire per la verità che ci sono responsabilità da tutte le parti. C'è un PDL che pensa il fatto che c'è stato un elemento di slealtà gli ultimi 2-3 mesi del governo. La politica però. È chiaro che questo crea un clima di sospetto, vabbè, fai l'accordo, questi ti mollano a metà strada. Questo bisogna capirlo, quindi non bisogna banalizzare. Sì. Però è chiaro che in un paese normale tu fai un programma rigoroso anche di contenuti molto di sostanza. Vabbè, sta d'accordo, lei lo farebbe giochi o no? Le carte, ti giochi le carte. Lo farebbe sta d'accordo lei, De Luca? Dia un consiglio a Bersani. Beh, alle mie condizioni lo farei, ma soprattutto avendo un partito che non dorme a piedi come dorme purtroppo il PD e un gruppo dirigente con gli attributi che non c'è. Non c'è. Uno dei problemi quindi di questo dorme accordo Bersani. C'è. Senza attributi. La paura di essere travolti da un accordo che può come offuscare completamente l'identità, l'immagine del PD, questa è la verità. Senza attributi, senza attributi. Nel frattempo io non vedo nessuna iniziativa, ci sarà sabato un'iniziativa sulla povertà. Ecco, mi dica qualcosa, mi dica. Stavate angosciando per chiedervi quando veniva un'iniziativa, c'è venuta. Sabato avrete un'iniziativa sulla povertà, e nella quale noi vi racconteremo che la povertà è brutta. E perché no contro la vecchiaia, De Luca? Perché non contro la vecchiaia? Io credo che non andremo oltre questo. E la dermatite. Una cosa la dermatite. No. Poi però aspettatevi da Bari qualche altra cosa. Contro la da Bari che scrisse... Ah, da Bari agli altri. A Bari Berlusconi. Orecchiette e broccoli a tutti quanti. quello vabbè, d'accordo. Però, scusi, De Luca, diciamo la verità. Indire una manifestazione contro la povertà è una cosa che... lo dica lei che è un dirigente particolarmente importante, un sindaco importante, ridicolo. Io l'ho detto ieri, ridicolo, o no? Vabbè, adesso tutto a un tratto diventa diplomatico. Ma che diplomatico, dai, appunto. Voi tornerete a casa vostra, diciamo, sabato dopo quella manifestazione come dopo il saluto di Papa Giovanni, bambini portate a casa, il mio saluto come il mio abbraccio. Posso dirle una cosa che sta diventando drammatica? Che cos'è? La povertà, sì, la gente veramente... Vabbè, certo, quello non c'è dubbio. Ma c'è un tema che... Ma non è un'offesa alla povertà? Fare una manifestazione contro la povertà non è un'offesa ai poveri? Cioè a quelli che soffrono sul serio? Per me sì, se uno fa una manifestazione... No, è una cosa che mi fa un po' irritare, perché la povertà c'è, va bene la manifestazione per segnalare ed esprimere solidarietà, ma andrebbe fatta un'iniziativa per dire che diavolo facciamo per alleggerire la povertà. Certo. E la povertà passa innanzitutto per i comuni oggi, perché non c'è un euro per dare una mano ai disabili, alla povera gente, ai pensionati. Io... È qui che ovviamente mi indigno, perché va bene la manifestazione, ma come dico io, le parole non servono a niente se ormai non sono legate a degli atti. Senta, ma Renzi come si sta comportando? Signor Renzi, come si sta comportando? Deve fare un passo in più? Deve un po'... Cioè, lei sa che io apprezzo molto la vivacità e la freschezza, però gli ho suggerito di liberarsi dall'ossessione comunicativa, perché sennò rischia di diventare come quello che fa le previsioni del tempo. Ogni mattina abbiamo un bollettino, diventa una palla e basta. E poi gli consiglierei anche di non essere troppo furbo. Io mi ricordo che dopo le primarie ha detto: io se perdo le primarie non chiederò poltrone a nessuno, come ha fatto Franceschini, Bindi, Letta, ho apprezzato molto. Poi ho visto che ha contrattato 50 parlamentari per la sua corrente, altro che la poltrona, si è fatto dare tutto il mobilificio. Scusi, attimo, allora, va bene la freschezza, la gioventù, ma non esageriamo con le furbizie, perché altrimenti inquiniamo anche delle immagini belle che possono essere spesse. Scusi, De Luca, ma questo Franceschini, per esempio, che era prima un anti-berlusconiano feroce, poi improvvisamente si è convertito sulla via del colloquio con Berlusconi, non le puzza un po'? Mi dica la Franceschini è di formazione cattolica, ed è stato sensibilissimo all'appello di Papa Francesco. Ma è una cosa... Si è commosso, via, dai. Ma come si è commosso? Ma lì è perché non è arrivato a fare il presidente della Camera, aveva già visitato gli uffici, è incazzato con Nero, con Bersani. Alcune cose in politica si spiegano in maniera... Siete sempre maligni, ma perché vedere sempre tutto. Ma perché in politica molte cose si spiegano in questo modo, non è che si spiegano attraverso i principi, le cose, molte cose in politica, noi per questo siamo... Lei dice molte cose. Molte cose, non tutte, non dico che sia solo questo, perché la politica c'è un sacco di gente... Prima a dire quelle che non si motivano. Senta, ma la faccia di Crimi, a parte il... Che cos'era quello, il...? Un procione lavatore, a me, ma lì non vedo... Un procione lavatore, ma ecco, che cosa le viene in mente quando sente parlare il signor Crimi? Ma se penso che questi hanno dato all'Italia, dovevano cambiare l'Italia, ci hanno dato Crimi e Lombardi, ma credo che abbiano arricchito un po' la galleria delle coppie famose dello spettacolo, che Gianni e Pinotto, Stanley e Oli, e Crimi e Lombardi, quando le vedo ho questa sensazione, francamente. Beh, però sembrano, in apparenza sembrano, la Lombardi sembra addirittura una maestrina delle elementari, no? Cioè una di quelle, no, che sta lì a rimproverarti. Un po' pipì, irrita molto, però quello che mi colpisce è che camminano quasi sempre in coppia. Eh sì, è vero, è vero. Li vedo sempre appaiati, esatto. Questo dico, mi sembrano Gianni e Pino. Esatto, sempre appaiati. Sì, vabbè, abbiamo la pubblicità, torniamo subito con le ultime raffiche di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, numero 3 nella classifica dei sindaci più amati d'Italia. Siamo scesi, eh? Che è successo? A tra poco. Ci sarà sabato un'iniziativa sulla povertà. Ecco, voi vi stavate angosciando per chiedervi quando veniva un'iniziativa. C'è venuta. Sabato avrete un'iniziativa sulla povertà, nella quale noi vi racconteremo che la povertà è brutta. Credo che sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. Ha notato, voi che siete dei maligni, delle carogne, ha notato la somiglianza impressionante di Crimi con il procione lavatore. Siamo qui, 800 24 00 24, con Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, Partito Democratico. Parenzo, dove sei? Dove diavolo sei? Ecco, ma voglio dire, lei ha visto, caro sindaco, cosa ha scritto oggi sul suo blog? Lei ci va mai sul blog del signor Grillo, signor sindaco? No, non mi concedo questa consolazione. Fotomontaggio con i tre colonnelli greci, che sarebbero Berlusconi, Bersani e Monti. Sì. I golpisti, ha scritto. E perché? Ah, perché non vogliono... Perché non vogliono, fare le commissioni subito. I golpisti. Perché hanno rifiutato le merendine a quelli che facevano occupazione là dentro. I golpisti. Grillo. Vabbè, ma lei si è rotto i coglioni, dica la verità, mi sono rotto i coglioni di questi qui proprio, perché così è, basta. Guardi, noi dobbiamo deciderci a in qualche modo rispondere, sì, anche a Grillo con, ecco, un minimo di ironia, con rispondiamo con il suo, ma se vogliamo prendere alla lettera quello che dice, vabbè, chiudiamo il libro, non si parla nemmeno da i golpisti. Così dice, i golpisti, perché non si, perché le commissioni non si riuniscono, per carità, magari nel merito hanno pure ragione, il Parlamento potrebbe funzionare lo stesso, però ecco, i golpisti mi sembra un po' troppo, un po' esagerato. Dai, sono quelle esagerazioni che poi per chi ha responsabilità di un movimento debbano essere controllate, francamente. Ma Bersani, mi fate tirare topi calci negli, non dico nelle balle, ma negli stinchi, sì, li continua proprio a sbeffeggiare, a calciare. Beh, il padre puttaniere della politica l'ha chiamato a un certo punto Bersani, Grillo. Ho la sensazione che non sia più molto divertente pure Grillo. A volte fa delle cose anche sfiziose, però quando poi esagera, parlando per un attimo seriamente, io credo che la volgarità offenda chi la usa, non chi la subisce, molto francamente. Comunque, quindi, vabbè, va bene una volta, due, tre, quattro, poi di fronte a condizioni del paese che sono davvero di disperazione, bisogna cominciare a fare persone serie. Comunque, la responsabilità, per l'amor di Dio, si può scegliere di fare qualunque cosa, dire sì o no, ma parlando di questioni serie, smettendola con il cabaret. E comunque Bersani ha incontrato oggi quello che Parenzo, il capo della sua segreteria, il signor Migliavacca, voleva mettere in galera, te lo ricordi qualche giorno fa, no? Quando disse, come se arriva la richiesta di arresto, beh, insomma, la posizione è un po' cambiata, diciamo la verità, questo gruppo dirigente che lei ha detto, ha definito anche prima, l'ineleggibilità, beh, insomma, no, il capogruppo al Senato ha parlato di Berlusconi ineleggibile, adesso per carità, va bene tutto, però dopo 20 anni uno si accorge che forse è ineleggibile. De Luca, ma questo gruppo dirigente com'è? Cioè, improbabile, diciamo. Improbabile. Lei cambierebbe tutti subito, via tutti. Assolutamente sì, perché via questo tutti. Gruppo dirigente vive di un vizio di fondo, si è formato non nei territori e nella terra, ma è figlio del correntismo, punto e basta, questo è tutto, non c'è nessun meccanismo di selezione del gruppo dirigente, quando prevalgono le logiche correntizie i gruppi dirigenti non esistono, sono solo caselle che vanno riempite per dare le percentuali alle singole correnti. La prima cosa che va sbaraccata in questo partito, se deve vivere, è esattamente questa logica correntizia. Scusa, del PD, certe volte, il peggio del centralismo burocratico della sinistra storica e il peggio del correntismo doroteo. In queste condizioni non si va avanti. Scusi un attimo, ma questa roba qui dei 5 stelle, dei soldi, questa discussione assurda su guadagniamo 2.500, 3.500, 4.000, adesso sono arrivati fino a 6.000, l'ha sentita De Luca sta cosa? Cioè, dovete avere pazienza, fra qualche altro mese vedrete che arriveranno ai diamanti di Belsito. La Lega era partita col cappio ed è finita con i diamanti. È vero, è vero. È Di Pietro era partito, non so che doveva, con la palingenesi universale, mi pare che si sia arenato, diciamo, su un po' di appartamenti. Ci auguriamo, diciamo, che non facciamo la stessa fine, però siamo in Italia, io ormai ho imparato a leggere già da lontano queste parabole. Abbiamo cominciato con Robespierre e già sono arrivati a 6.000 euro al mese, ho capito. Senta, l'ultima cosa, ma a proposito di parabole, ha visto come è finito in groia? Perché non l'ha preso lei a Salerno all'agenzia di riscossione? Alla riscossione. Sta bene con Crocetta. Perché, perché dice che sta bene con Crocetta? Sta bene con Crocetta, Dio lo abbia in gloria, sta bene dove sta. E credo che ad Aosta abbiano tirato un respiro di sollievo. E a Palermo invece, come dire... E a Palermo gli è andata male. Gli è andata male a quelli... Ma chi? A quelli sono che... Sono per soffrire i nostri confratelli di Palermo. Scusi però un attimo. Però gli stambecchi in Val d'Aosta festeggiano gli stambecchi lì su. Però secondo me arriveranno un po' di cartelle esattoriali in più ai siciliani, eh. Io ho questa impressione, non lo so, la mia impressione è che i siciliani si scateneranno le cartelle esattoriali, questa è la mia impressione. Ma non lo so, ovviamente se fa, per l'amor di Dio, adesso fuori dagli scherzi, se fa il suo lavoro fa bene, per l'amor di Dio, tutto a posto, credo che però sia stata una vicenda molto triste, molto triste. Anche in groia, è un improbabile. A presto, sindaco! Grazie, buon ciao, lavoro. Ciao, ciao, ciao. Party. Le manette, le manette, maledetti, le manette mi volete mettere. Ci volete mettere le manette, ma non ce la farete. Raffaele da Siracusa, buonasera. Molto di cattivo gusto. Dica. Ciao Giuseppe, salve Parenzo. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. In che senso? In che senso? Volevo dare una mia piccola testimonianza di quanto carogna sei, ti do del tu, caro Giuseppe, per un piccolo aneddoto che volevo raccontare. Vai, vai, basta che non siano cose pornografiche, no, no, anche se fossero pornografiche. Vabbè, insomma, no, però... vabbè, tu ci sguazzi, figurati. 1980, addirittura. Esattamente, Siracusa, campetto di calcetto sotto casa Cruciani. Dai, non mi fare emozionare adesso, dai, su. È entrata come Raffaele da Siracusa. Vabbè, adesso non andiamo, non so, adesso non mi ricordo comunque, bene. Comunque, vai. Comunque, entrata micidiale di Giuseppe Cruciani a Carrigno su di me. Entrata quando giocavamo a pallone, allora sì, è entrata sulle gambe. C'era un campetto giù. Sì, no, ma certo che mi ricordo. Allora? E allora non hai neanche chiesto scusa. Non sono mica rincoglionito ancora. Cioè, ancora sono abbastanza sobrio. No. Ah, c'è crimi, il procione, okay, secondo De Luca. Aspetta un attimo, Raffaele, aspetta. Okay. La definiscono non democratica. Allora, innanzitutto non è una protesta, ma è un'operazione per sensibilizzare non le altre forze politiche che le abbiamo più volte coinvolte in questa nostra richiesta, ma i cittadini, per informarli di quello che sta succedendo. Le commissioni al Parlamento possono essere formate. Per essere formate occorre che vabbè, ogni Crimi gruppo sta spiegando il perché non hanno occupato, tra virgolette, o comunque restano in Parlamento fino a mezzanotte, perché non si costruiscono le commissioni permanenti. Su questo devo dire che non ha tutti i torti. Il Parlamento può, secondo me è una stupidaggine quella di restare in Parlamento, si può fare in modo diverso, ma il Parlamento può lavorare da oggi, potrebbero, cioè da ieri, dall'altro ieri, certo, possono presentare disegni di legge e discutere disegni di legge, solo che nella prassi parlamentare italiana il Parlamento non funziona, non inizia a lavorare se non c'è prima tutta una la formazione del governo, cioè, siccome il governo è in fase di stallo, se i partiti avessero davvero in mente di prendere dei provvedimenti urgenti per il paese, come dicono, e in realtà non sanno nemmeno cosa fare, presenterebbero dei disegni di legge in Parlamento in maniera autonoma, perché il Parlamento può decidere in maniera sovrana, questo è il punto. Allora Raffaele, veloce però, No, molto veloce, praticamente non è neanche che vabbè, t'ho rotto le gambe, che t'ho fatto? Non t'ho fatto niente, dai. C'era Federico che diceva Raffaele, non è mio fratello, sì, che è mio fratello. È proprio uno stronzo. Comunque, ascoltami Giuseppe, il discorso è molto semplice, volevo fare una riflessione per quello che sta succedendo qua un po' in Sicilia, no? Noi abbiamo dato a man bassa voti a Movimento 5 Stelle che praticamente governa lui, insieme a Crocetta 5 Stelle, cioè, assolutamente sì, e allora? Una riflessione da fare, io credo. Che riflessione bisogna fare? No, che qui in giro attorno a me chi l'ha votato è molto molto deluso e pentito, proprio perché? Per il discorso appunto dell'appoggio, no, per il mancato appoggio al governo al PD, PD. Sì, assolutamente, anche perché c'è praticamente una presa di coscienza che il lavoro che stanno facendo qua alla regione in pratica sta dando i suoi frutti, non chiamiamolo ricatto, ma spostiamo sul modello crocetta ci sarebbe da discutere. Comunque vabbè, l'indicazione è diversa, capito, però l'indicazione che viene da Raffaele Parenzo è interessante, perché lui dice, ma questa è una cosa che abbiamo riscontrato anche noi, no, in questi giorni, molti elettori dei 5 Stelle dei 5 Stelle vogliono in realtà che questi voti pesino, che questi voti siano importanti per decidere qualcosa. In realtà Grillo se ne fotte e dice: noi andiamo avanti perché vogliamo fare il governo da soli, non mi posso mettere a trattare ogni cosa con Bersani, fare i vertici, non ha tutti i torti da questo punto di vista, fare i famosi vertici, i compromessi a quella legge, così loro hanno il loro programma e lo vogliono attuare in pieno. Pubblicità, torniamo subito. Con quella che Enrico Vaim, sono certo, definirà una mascalzonata. Una mascalzonata, vedi, è che un ti reato conosco, che io spero verrà perseguito. Temo perché non sia un reato, ma il tema forse è altro. Sostituzione di persone. E va bene, adesso poi ci facciamo aiutare, perché abbiamo chi ci può aiutare. Tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio più in prigione. Credo che sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. Io prima di tutto voglio osservare come un comportamento così, mi spiace per gli amici che sono tanto bravi della Zanzara, è un comportamento indegno, sbagliatissimo. Perché? Perché non si può mettere in onda dei commenti i quali sono stati dati dentro un altro contesto. Ognuno di noi dice un mare di sciocchezze. Allora mi chiamano per dirmi che in realtà le commissioni senza governo non si possono formare, perché ci vuole un governo e un'opposizione, e in questo modo si decidono i presidenti, i vicepresidenti, eccetera eccetera, e che di solito le commissioni non lavorano senza un governo, e per lavorare in maniera provvisoria ma non decisiva ci sono le commissioni permanenti, le commissioni, ma va benissimo tutti questi meccanismi parlamentari, la gente non gliene frega niente di questi meccanismi, la gente vuole, sa che il Parlamento, in Parlamento si possono decidere delle cose. Se uno ha un disegno di legge da presentare importante, e sono d'accordo 3-4 partiti, li presentassero, se fossero d'accordo su cosa fare nell'economia, nella legge elettorale, eccetera eccetera, presentano i disegni di legge e si approvano in aula direttamente. Allora, Renzi oggi, fa che un parlamentare aveva presentato un disegno di legge folle, lo abbiamo anche sentito al telefono, per istituire una nuova, il Principato, cos'era quella roba lì, quel parlamentare che voleva istituire il Principato di cosa lì in Puglia, ti ricordi o no? Sì, non mi ricordo, sì. Quindi vuol dire che in questo momento attivo. Sono i vecchi disegni di legge ripresentati. Che si possono però già votare volendo, non è che uno fatalino fa un cazzo in attesa delle commissioni, si può già lavorare. Il senso di questa occupazione, di questi quattro scombinati ma simpatici in questo caso, è un senso vero di far vivere le istituzioni, vivere. Giovanni da Chieti, buonasera. Giovanni, dica. Giovanni? Sì, pronto? Dica. Niente, io volevo solo dare la mia solidarietà. A chi? Al signor Paolo di ieri sera. Ma chi che è Paolo? Chiamato. Chi è Paolo? L'ha fatto nero, quello che ti ha fatto nero nero per telefono. Sì. Che non hai potuto Ma non lo so. Guardi, questa cosa qui, ovviamente poi ognuno la pensa come vuole. Il punto fondamentale è che quel signore lì di Genova voleva impormi una scaletta. Poi diceva continuamente: ma cosa significa questa cosa? Spieghi cosa significa questa cosa. Ma non me ne frega niente, Giovanni, non ha capito ancora. A me non me ne può fregare di meno. Io ti dico solo una cosa: io sono un ascoltatore della prima ora, e resterò ascoltatore per sempre. Bene. Però ultimamente il tuo modo di condurre la trasmissione lascia un po' a desiderare. Sì, ma lei ha passato al tu perché è così, perché si diverte in questo modo? Vabbè. No, va benissimo, lo può usare il tu, lei, a suo piacimento, così. Voi. Comunque non cambia il succo del discorso. E qual è il succo? Non ho capito, qual è il succo? Io, da ascoltatore tranquillo, che ti ascolta tutte le sere. Sì, allora? E ho notato un piccolo cambiamento nel modo di ma lei è sempre la stessa persona da anni, cioè non ha dei piccoli cambiamenti di umore eccetera? Quando va a casa ogni tanto si incazza con sua moglie la sera? Ma certamente sì. E allora appunto basta. Beh, poi dopo bisogna tornare nella retta via. Secondo ma quale retta via di che cosa? Ma quale retta via di che? Quale retta via di che sta parlando, Giovanni? Vabbè, voglio vedere finché resterà al suo posto. Io ma che vuol dire, Giovanni, finché resterà al suo posto? Ma di cosa parla? Ma che la sta tirando? Di cosa parla? Di cosa parla? No, okay. La sta tirando, dice Parenzo. La sta tirando. La sta tirando. No, no, no. Ok, ho detto la mia. Ma che ha detto? Non ha detto niente. Paolo da Milano. Paolo da Milano, ma che ne so. Paolo. Buonasera. Vada. Chiamavo per il discorso di Onida. Io vi sento abbastanza saltuariamente. Vi sentivo nel passato, ma recentemente, insomma, l'ultimo paio d'anni un po' meno. Ma il problema vero è che, dal mio punto di vista, sì, lei è un berlusconiano a sua insaputa. Sì. Nel vabbè, senso che tutti gli altri lo sanno, tranne lei. Inizia il delirio, su. E l'operazione... Inizia il delirio, su. Partiamo col delirio di Paolo da Milano, 20 e 16. Sì, sì. È iniziato il periodo... il momento delirio, diciamo, no? Oh, ecco, trasmissione in convenzione, come fa ogni tanto Radio. Allora, trasmissione in convenzione... L'operazione dei saggi serve, sì, semplicemente a guadagnare tempo e a far decantare la situazione. Mm. Bene, d'accordo. Poi... A qualcuno va bene, è qualcuno che si aspetta che la situazione che decanti gli porti dei benefici. Va bene, poi? A qualcuno va male. Sì. E va male a qualcuno che vorrebbe che la situazione non decantasse, non facendo i nomi. Sì. Va benissimo a Bersani. E va malissimo a Berlusconi, va bene. E va malissimo a Berlusconi. Poi? L'operazione che lei fa, che è un'operazione su cui non ho niente da dire da un punto di vista morale, trovo buffo il fatto... che venga nascosto sotto il titolo Goliardia, è un'operazione politica. Operazione politica, un'operazione politica. Sì. Politica. No, ma è un delirio, su. Ma dove sarebbe l'operazione politica? Ma quale operazione politica? Ma lei è pazzo, lei è tecnicamente pazzo, glielo dico io. C'è una cosa molto semplice, si può giudicare questa cosa in tanti modi. Quello che sta dicendo, se lei pensa che abbia fatto un'operazione politica nella vicenda del professore Onida, lei è tecnicamente pazzo, glielo dico, perché lei non sa come funzionano le cose qui. Se lei venisse un giorno qui a seguire come costruiamo questa trasmissione, questa trasmissione che è diventata quello che è diventata anche grazie alla nostra improvvisazione, oppure a causa della nostra improvvisazione, lei capirebbe che non c'è nulla, ma proprio zero di quello che lei può pensare, perché a me tutto delle conseguenze, chi si avvantaggia di una cosa o chi se ne o chi ci perde, a me non me ne frega nulla, lo può capire o no questa cosa qua? Riesce a metterselo dentro la testa che a me non me ne frega niente delle sorti di Berlusconi, delle sorti di Bersani? Ma non diciamo cose che sono, lo dicevo, lei è un berlusconiano a sua insaputa. Vabbè, resti lì, ma lei tanto, lei essendo malato, io non c'è nulla, cioè lei dovrebbe fare una specie di lavaggio del cervello prima, c'è il traffico, poi un ospite, è traffico. Oh, nel giorno dell'incontro Bersani-Berlusconi, che non si sa ancora quali effetti abbia avuto, pare che non sia stato risolutivo, a 45 giorni dal voto si incontra, non è risolutivo, guarda che la politica italiana è una cosa incredibile. Torna con noi il direttore di Micromega, Paolo Flores d'Arcais. Buonasera. Buonasera. Come sta? Non male. Non male è già qualcosa, no? È già qualcosa. Questo. È già qualcosa. Scusi, ma questo incontro, lei fosse stato in Bersani, l'avrebbe incontrato Berlusconi? Ma è pazzo. Dove, sono pazzo io a fare una domanda o è pazzo Bersani ad averlo incontrato? Scusi. No, è pazzo lei anche a farmi una domanda del genere. Ma certo che non si incontra Berlusconi, ma lei... Le pare che Hollande incontrerebbe mai Le Pen? Beh, adesso non è che il paragone è improprio. Il paragone è improprio. Se l'ha capitato qualche volta. Certo che... È improprio? No, no, no. È certamente improprio, perché Le Pen non ha tre reti televisive e l'impero finanziario di Berlusconi. Appunto, dico, per questo. Appunto, quindi Berlusconi è peggio di Le Pen. Dal punto di vista, lei dice, del conflitto di interessi, della democrazia, eccetera. Dal punto di vista di tutto. Perché Le Pen piglia i voti, le penne piglia i voti e basta, no? Piglia i voti sulla base del suo programma. Anche che... Berlusconi. No, Berlusconi. No, però Berlusconi, lei dice, li prende anche grazie a tutto quello che abbiamo detto. Sono due odiatori delle costituzioni democratiche. Sì. Sì. E in più Berlusconi c'ha questa illimitate... potenze finanziarie e mediatiche che in nessun paese di democrazia occidentale sarebbero consentite a chi vuole far politica. E dunque, non ho capito, questo incontro è un autogol, una cosa che non... Questo incontro è una pure semplice indecenza. Bersani proprio a un leader democratico non gli dovrebbe neanche venire in mente di fare un incontro con Berlusconi. Ho capito, ma dovrebbe spellerlo dalla vita civile, non ho capito. Bersani, cosa dovrebbe dire? Esattamente. Cioè dovrebbe dire con Berlusconi non parlo perché è fuori dal consesso civile, è fuori dalla democrazia. Deve stare là. È anche ineleggibile, quindi Bersani avrebbe già potuto farlo cacciare dal Parlamento se avessero incominciato oggi a far funzionare le commissioni. Questo è vero. Purtroppo, come al solito, no, ma solito parlano e poi al dunque si tirano indietro. Poi c'è questa politica dei due forni, bisogna dire, su questo devo dare ragione al Forrester Kays, su alcune cose non sono d'accordo, però su questo devo dire di sì, perché il Partito Democratico ma non può far dire al suo capogruppo al Senato Zanda che Berlusconi è ineleggibile e poi vai a fare l'incontro con Berlusconi. Abbi pazienza, allora no, delle due l'una, o fai dimettere Zanda che ha detto che Berlusconi è ineleggibile, scusa, perché altrimenti è ridicolo, il tuo capogruppo al Senato, il Senato è il posto dove in questo momento si decidono le sorti del paese, diciamola tutta. Il capogruppo al Senato tu l'hai scelto apposta, tra l'altro, perché volevi in quel momento lisciare il pelo ai grillini, e allora hai messo Zanda a capogruppo. Benissimo, Zanda, una delle prime cose che ha detto, ha pure aderito al manifesto appello di Forrester Kays e di Micromega, ha detto, l'unico forse dirigente del Partito Democratico, ha detto Berlusconi per me è ineleggibile, cioè non dovrebbe stare proprio in Parlamento, non dovrebbe stare in politica. Allora poi tu non puoi andare a parlare con l'ineleggibile, e da questo punto di vista non è che c'ha torto. Parenzo, che vuoi dire a Florence Arcais? No, voglio chiedere a Florence, sì, però sarà Berlusconi e la sua pattuglia di deputati a eleggere il capo dello Stato, e cioè con quelli bisogna fare i conti, non è che gli si può prendere a pedate nel sedere e buttarli fuori dall'emiciclo. Per cui dice Parenzo, giustamente... Veramente, al Partito Democratico mancano 9 voti, sì. Il Movimento 5 Stelle ce n'ha 164, basterebbe che il Partito Democratico, invece di fare dei nomi impresentabili della vecchia casta, tipo? Tutti quelli che ha fatto, da Marini a D'Alema, a tutti quelli che vengono a Violante, poi non parliamo... Perché Violante che ha fatto? Perché... Beh, Violante ne ha fatte più di Carli in Francia a favore dell'inciucio. Sì. Basterebbe che proponessero uno di quei nomi che veramente si metterebbero al servizio della Costituzione. Per esempio? Per esempio Zagrebeschi o Rodotà. Zagrebeschi o Rodotà, secondo lei dovrebbe essere la proposta del Partito Democratico, al contrario di... Ma ha detto su Zagrebeschi... Secondo me dovrebbe essere anche la proposta del Movimento 5 Stelle. Ma quelli vogliono fare internet, vogliono fare... Speriamo che da internet esca fuori uno di questi due nomi. Ma lo sa, ha sentito Ferrara che fa se viene, se Zagrebeschi e Rodotà vengono letti al Quirinale? Ha detto che si butta giù dalla Torre Velasco. Si fa esplodere. No, si figuri. E come no? Ci avrà un motivo in più per spargere veleno contro i veri democratici. Beh, adesso Ferrara pure, non è che sa... Non divaghiamo su Ferrara. Scusi un attimo, però, professor Kays, il punto è un altro. Qui c'è stata una conversione a U, perché io ho fatto risentire prima in audio il Franceschini di qualche mese fa, quando faceva il capogruppo alla Camera, e non solo, era uno, è stato sempre un anti-berlusconiano di ferro. Con il Franceschini dell'intervista, non mi ricordo dove, se al Corriere o Repubblica, ha cambiato un po'. E poi dall'Annunziata domenica, se non sbaglio. Cioè, una cosa clamorosa, clamorosa. Dice che adesso con Berlusconi, siccome ha preso i voti, bisogna parlare, che non dobbiamo fare troppo gli snob, che non possiamo essere supponenti, con Berlusconi si parla. Come giudica questa cosa? Beh, lei è stato molto gentile a chiamarlo in versione AU. Questa è una oscena opportunismo. Fare questi voltafaccia in politica. Prima chiedi i voti agli elettori dicendo Berlusconi neanche da lontano, sì. E poi quando pensi che ti convenga, perché non lo so, ci avrà in mente di fare leggere al Quirinale Marini o qualcun altro che gli piace, sì. Allora torna buono tutto. È osceno, è stato osceno. È stato osceno. Vabbè, insomma, comunque, Bersani, quanti voti ha perso secondo lei con questo incontro con Berlusconi? Beh, credo che ne abbia persi non pochi, ma soprattutto ne ha persi quando è chiaro che non facendo subito le commissioni non si potrà neanche riunire e formare la giunta per le elezioni. Ma lei, che deve decidere. Lei ha mai incontrato Berlusconi, Florida Kays? No. Non le farebbe piacere incontrare Berlusconi una volta, stringere la mano a Berlusconi? Senta un po', queste cose, per favore, almeno lontano dai pasti. Beh, addirittura. Perché almeno... da vomitare, ma almeno una cosa buona l'avrà fatta sto povero uomo. Una, cioè, una, cioè, una cosa nella sua vita buona, una caretta pubblica, un bambino, una cosa pubblica buona l'ha fatta, una. Lasciamo perdere, nessuno. Una sola, la essere, prego, una. Cerchiamo di essere seri perché la situazione è tragica. Però... ci sarebbero i numeri in Parlamento per una straordinaria svolta, per portare l'Italia fuori da questa morta gora dove si trascina e invece dice... di ventennio. Ci sono i numeri per farlo, è un'occasione incredibile. Ma chi è che la butta via? Grillo o Bersani? Non capiterà più, perché io ormai ho 70 anni e nella mia vita non capiterà più. Ma è pazzesco che non la si colga questa occasione da parte del Movimento 5 Stelle di Grillo per un eccesso di autoreferenzialità, come se il movimento fosse l'ombelico del mondo e non uno strumento per cambiare le cose. E dalla parte del PD, perché a questo punto io non riesco neanche più a capire perché. Perché avrebbero anche un vantaggio di bottega. Quindi a questo punto posso solo pensare che lì ci siano parecchi dirigenti ricattabili, perché altrimenti non si spiega perché non colgono... Cioè, come ricattabili? In che senso ricattabili? Ricattabili, in che senso io non lo so, ma vede, alcuni anni fa io pubblicai su Micromega un dialogo fra Pier Camillo Davigo, procuratore all'epoca di Mani Pulite, uno dei sostituti, e Giuliano Ferrara. E a un certo punto nel corso della discussione Giuliano Ferrara disse: perché la prima caratteristica, anzi mi sembra che dice la prima caratteristica positiva, insomma, che deve avere un politico è di essere ricattabile. Davigo fece un sobbalzo e disse: voleva dire di non essere ricattabile. Lui dice no. E Ferrara dice no, di essere ricattabile, perché così tra loro si fidano se sono tutti ricattabili, mentre uno che non è ricattabile è una anomalia e non è affidabile. Ecco, a sto punto io... Ma chi è che ricatta chi? Cioè, Berlusconi ricatta qualche dirigente del Partito Democratico? Non lo so, in questo caso. Senta, lei mi riesce a dare un'altra spiegazione del fatto che, avendo la possibilità in poche settimane di estromettere Berlusconi dalla vita politica, questo a quel è vero, punto eh? Cambia l'intero scenario. Non lo fanno, a quel non succede. Punto, sì. Perfino un pezzo del movimento di Berlusconi, molti di questi deputati, ci sono fior di opportunisti, passerebbero col centro, no? Dice perché. Quindi, non si fa? Perché molti dirigenti, alcuni dirigenti del Partito Democratico, secondo lei sono ricattabili. Io non riesco, se cosa? Mi si dà, guardi, se mi si dà una spiegazione più credibile, io l'accetto. Ma ricattabili di che? Cioè, hanno Berlusconi ha dei files, li tiene per le palle, che fa? Non lo so. Questa è un'espressione colorita, però. Capisce bene che io non ne ho la minima idea. Vabbè. Però posso solo constatare che non si fa, non si coglie irrazionale che non si colga questa occasione. È inspiegabile il fatto di avere una chance così straordinaria e buttarla. Grazie, a presto. Salute. Grazie a voi, arrivederci. Pubblicità. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Intanto oggi Renzi ha detto che in sostanza Bersani ha perso le elezioni, lo ha rimarcato, lo ha sottolineato. Beh, sì. Diciamo che non le ha vinte, ecco, nonostante i suoi sforzi. Credo che sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. Che Enrico Vaime sono certo definirà una mascalzonata. Una mascalzonata vedi è che un ti reato conosco. Che io spero verrà perseguito. Temo non sia un reato, ma il tema forse è altro. È assolutamente sostituzione di persone. E va bene, adesso poi ci facciamo aiutare, perché abbiamo chi ci può aiutare. Però furto. Appunto parliamo della Zanzara, Radio 24, l'Inter... Molto cattivo gusto. Hai capito? Ho capito, ci sono siamo qui. Rimandi come un mantra. È Eugenio dalla provincia di Brindisi, buonasera. Perché? Buonasera, Cruciani. Dica. Le volevo fare i complimenti. sì. Per quanto riguarda la sua, dopo un percorso tortuoso, sì. impervio, sì. ce l'ha messo di tempo, ha trovato la sua giusta collocazione. In che senso, scusi? Fare una trasmissione hard. Hard, sì. L'ha rivelato stasera lei. Sì, l'ho rivelato. Benissimo. Una lei, grande rivelazione ho fatto, sì. Sono l'erede di Schicchi, sì. Sì, clamoroso. Sì. E prenda accordo con Cicciolina e con Eva Enger, sì. e si tolga dalle palle però. Bravo, bravo. E lasci fare a Parenzo. Insista. Ma lei ha un po' di politica da parte sua. Sì, insista. Ma non devo insistere, tanto lei come al solito, arrogante e caffone com'è, sì. provvederà a chiudere e mandarmi via. No, lei sta qui, ma... No, adesso non manca a trovare. Vabbè, ma se se ne vuole andare, se ne vada, quello è il problema. No, arrivederci. Arrivederci. Fabrizio da Brescia, salute. Buonasera. Schicchi è bellissima però, Cruciani. Eh? L'erede di Schicchi è bellissima, dico. Ma che erede di Schicchi, poveraccio, è pure morto Schicchi. La buon'anima di Schicchi. Allora? No, guarda, io... Più passano i giorni, sì. più vedo questa situazione con questa manica di farabuti, più sono contento e orgoglioso di aver votato per i 5 Stelle. Assolutamente, ragazzi, non mollate. Così. Non alleatevi con questa manica di banditi, perché siamo rovinati in mano a questa gente. Bisogna tenere duro e mandarli via tutti. Oh, lei è un grillino di ferro. Di acciaio, non di ferro, ma diventerò di plutonio, diventerò ma bisogna fare questo accordo col Partito Democratico o no? Ma assolutamente no, ma stiamo scherzando, ma avete visto che gente? Cioè, questi qui inciucciano da 20 anni con Berlusconi e adesso ci vogliono prendere per il culo, ma stiamo scherzando, ma cosa pensate che siamo deficienti? Ma ci hanno provato prima con voi, ma ci hanno provato con voi prima, ci hanno le provato. Televisioni e giornali che ci rimbambiscono ogni giorno con notizie false, ma anche voi che date notizie false sui soldi e grillini, ma sono tutte cose non vere, hanno detto quanto prendono al mese, è quello, punto. Che siamo diciamo che erano partiti, euro, ma hanno no. Hanno rubato per 20 anni, vi scandalizzate per 500 euro. Ma chi si scandalizza? Ma nessuno si sta scandalizzando. Per carità, a me non me ne frega. Possono guadagnare anche 20.000 euro al mese, ma se lavorano per il mio paese, a me va benissimo. Se non rubano, no. Se rubano, mi giro i coglioni, va bene? Ho capito, Fabrizio. Guardi che il problema è un altro. È che gli stessi grillini avevano detto che prendevano 2005. Poi si sono accorti che in realtà c'erano i rimborsi. Dunque la cosa è salita. Poi adesso alcuni si lamentano. Alcuni si lamentano. Ma ho capito, ma che c'entra questo qua? Non è che uno può giustificare tutto. Se non rubano, allora va bene anche contraddirsi. All'inizio avevano detto che si guadagnavano 2005. Si poteva tranquillamente campare con 2500 al mese. 5.000 lordi. Adesso, vabbè, 2005 netti, si sono accorti che non è così. È un tale Campanella, che è quello che abbiamo fregato nello scherzo nostro con Vendola, stanno ridiscutendo tutto. Dice, si potrebbe stabilire un forfè da non rendicontare, che so, un tetto fisso per vitto e alloggio, tutto quello che si spende in più invece andrebbe giustificato. Io non abito a Roma, non saprei dire queste dinamiche, cioè, sì. Io l'ho detto, se devo guadagnare 1.000, 2.000, no, ma io sono d'accordo con lei, Fabrizio, il problema è che... Ma ho capito, ma sono loro! Sono loro che l'hanno promesso, avranno fatto male i conti, ma dov'è il problema? In mano a questi delinquenti che rubano da 20 anni, ma li vedete? Anzi, propongo una cosa, approfitto. Non volete fare le commissioni? Perfetto, sospendiamo lo stipendio ai nostri dipendenti parlamentari, perché non stanno lavorando. Se io non lavoro non mi pagano. Allora, signor Franceschini, D'Alema, tutta questa bella gente che va lì a scaldare le poltrone, non gli diamo lo stipendio, visto che non stanno lavorando, giusto? Sì. Quando lavorate verrete pagati, fine a discorso. State in aspettativa. Vogliamo farlo lavorare questo Parlamento, sì o no? Non lo so io. Che cacchio aspettano? Fabrizio, perché lei va alla grande, cioè, lei sfonda una porta aperta con me, però sono diverse le cose, sono loro che hanno posto la questione dei soldi dei parlamentari, dello stipendio dei parlamentari, non l'abbiamo mica posta noi la questione, sono loro che dicevano che si poteva vivere a Roma come Francescani insieme, in casa, in 3-4, allora, ma lo possiamo notare oppure è vietato? Lo possiamo notare oppure non facciamo mica disinformazione se lo facciamo notare? Diamogli anche 1.000 euro in più, ma chi se ne frega, se a me fanno le cose che mi dicono che no, fanno. Non è quello che dicono loro dicono che si può stare, si può vivere a Roma come dei francescani a 2.500 euro al mese, vivere insieme in una comune, abitare in 4-5 persone a casa, fare allora, i parlamentari io conosco dei ragazzi che sono di parlamentari a Roma, sono in 3 in una casa, cioè si dividono le spese, mangiano gli spaghetti fatti da loro la sera. Ho capito, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma uno deve abitare a casa sua, ma uno non può fare il deputato e abitare in 3-4 insieme, dai, ma di che parliamo? Ma chi lo dice? Li schemi vostri. Ma che schemi? La normalità, dai, su. Ma non siamo mica, ma non siamo mica la Comune di Parigi, su. Ma vabbè, ognuno fa quello che vuole. Ma dai. Nei panini dello zainetto, ma che cosa vuol dire? Poi Ma che... poi sento dell'ironia sui panini nello zainetto, ma cosa vuol dire? No, la minestrina che mangiano, la minestrina insieme, si dividono anche gli spaghetti con la salsa già preparata, cosa fanno? Ma che cacchio me ne frega, possono mangiare anche toast tutte le sere, ma l'importante è che quando vanno in Parlamento bloccano questi farabutti, va bene? Ma che fanno? Poi si dividono il letto, che fanno? Fanno le ammucchiate? Fanno le ammucchiate, Fabrizio, che cosa fanno? Questo non lo so, io non ci sono lì con loro, quindi... No, ho capito. Ma usano le mutande per 4 giorni, il giro me le giro nei diversi modi per non sviluppare troppa acqua. Sono uomini normali come noi, cioè ognuno ha i suoi usa difetti, i calzini due volte, li gira, me li rigira, ma saranno esseri umani normali come noi, parlamentari, non è dai che su da fanno no, la no. Fanno la lavatrice in comune e dove si fanno le lavatrici autonome, le lavatrici automatiche, un deputato, si scambiano le camicie. Siamo dei dell'Olimpo, siamo esseri umani. Si scambiano le camicie rispetti la mattina? Ma cacchio, ma non capisco. Cioè, ma vi fa paura la normalità? Non lo so. Ma io, che cioè c'entra la normalità? Ma vabbè, la normalità è questa: vivere insieme, mangiare insieme. Dov'è la problema? Ma, io non capisco. Ma perché lei, scusi, lei vive insieme a un'altra persona? Vive in 3-4 nella stessa casa? No, io vivo con la mia compagna, ma io sono un deputato. Non mi sono dovuto trasferire a Roma. Dai, se mi fossi trasferito parliamo a Roma, dai, mi sarei diviso volentieri un appartamento con qualche amico deputato, perché no? Ma va bene tutto, ma non sarebbe si può... anche più divertente probabilmente. Ma dai, ma non si può fare la comune 4-5 persone insieme a scambiarsi le mutande, le camicie, le ma cose, dai, parlando su Fabrizio. No, ma di che parlate voi, Parenzo? Se io non capisco, vi fa paura la normalità delle persone. Fa paura la demagogia estrema delle persone che entrano in Parlamento, che a quanto pare questo Parlamento è l'Olimpo degli dei, no? Intoccabili, gli onorevoli. Delle persone normali entrano lì, vi fanno paura che ci sono delle persone che non sono corrotte e corruttibili. È questo che vi fa paura, la demagogia estrema. Ma quale demagogia? Stiamo parlando di persone normali che si mettono in discussione. A me non me ne frega ma un che cazzo facciamo? La compriamo che insieme principe, la marmellata? Facciamo... Quando arriva si inchinano tutti e facciamo si a mezzi. Ma che cosa fanno? Fanno la votazione online per sapere se la mattina mangiano la marmellata, i frutti di bosco oppure soltanto con il burro. Parezzo, ma non sa quello che dice, non ma sa ci sono... parla. Scusi, ma ti informi prima. Scusi, Grillo, ma Grillo, ci sono novità su qualche ripresa che avete fatto di recente a casa Casaleggio? È sempre tutto collegato, le telecamere sono accese? Abbiamo messo tutto nella rete. Ma cosa avete l'altro messo? Giorno sono tornato a casa perché volevo fare una sorpresa a mia moglie. Ho trovato Casaleggio con i 4 tecnici del computer, tutti che facevano l'amore, una cosa meravigliosa. Mia moglie si è spaventata e ha detto: no, non è vero. Ho detto: è tutto vero, lo mettiamo tutto nella rete. Ma come tutto in rete? Scusi, sua moglie insieme a quattro persone. Era lì con 3 persone, c'erano 2 tecnici, una cosa meravigliosa. Tutto deve essere trasparente. I miei figli devono sapere. Ma cosa stupenda! Ho messo telecamere ovunque. Mia moglie si è lamentata perché era lì che stava facendo la pipì, a un certo punto ho provato a tirare il water, non veniva giù l'acqua, è venuta giù una telecamera, mi ha detto: ma Beppe, ma perché mi sono... perché tutto deve essere visto da chiunque, anche in Austria lo fanno tutti, tutto interconnesso deve essere. Ma ho capito, non però c'è... anche quando uno fa la pipì, se lei ha le riprese di sua moglie mentre fa la pipì. Ho messo 4 telecamere, una dentro la tazza del cesso, un'altra dove spingi il bottone, così ci da tutti i punti di vista, deve essere sempre ripreso ogni momento, non ci deve essere niente di nascosto, ogni momento, lo fanno capito, tutti, però, tutto il mondo. Ma non è vero, io non vedo tutto il mondo. E la gente che vota da casa, dice sì questa volta perché ha fatto la pipì 2 volte la signora Grillo. Devono sapere, tutti devono sapere. Mi pare l'altro giorno l'ha fatta 4 volte e è andata in giardino perché pensava non ci fossero le telecamere, ho messo le telecamere anche in giardino. Oppure in giardino l'ha messa. Si era nascosta dietro un albero, poverina, gli avevo messo la telecamera dentro il muschio. Devono sapere, non c'è nulla di nascosto. Ho capito, ma scusi, perché deve essere importante? La gente deve votare, deve capire. Ma devono sapere tutto. Ma perché io devo sapere se la sua moglie fa piscia 4 volte al giorno, scusi? Perché non ci sono segreti, è tutto aperto. Le primarie della PP in rete faremo, puoi pisciare soltanto dalle 14 alle 15, deve decidere la gente, è il futuro, siete morti voi, non avete ancora capito perché cruciale devi pisciare qualsiasi ora del giorno. Non è vero, devi regolare il flusso della prostata e devi decidere la rete, la rete. Vabbè, ho capito, lo dica anche al dottor Squizzi, dato che c'è questa cosa qua. Ma quello lì non ha capito, quello continua ad avere una fabbrica ma capite la follia di una fabbrica? Operai che si svegliano la mattina per andare a lavorare in un posto. Vabbè, ho capito, ma è la normalità, le fabbriche. Ma per non produrre niente, non serve produrre un cazzo. Non serve produrre, vabbè, non serve più produrre. Si beve il piscio, si mangia la verdura del giardino. Cosa serve muoversi? Vabbè. È vero, io mi muovo per fare i miei spettacoli che costano 50 euro, ma questo non c'entra un cazzo. Ma comunque, la gente, mi devo muovere io per fare gli spettacoli, è ovvio, spettacoli meravigliosi. La gente viene a vedere, ma non devono produrre. Perché gli opere? Squinze, sbagliate. Tutto, ma io ho capito perché c'ha le fabbriche, ho capito, la chimica è importante, la chimica, modello di sviluppo morto. Vabbè, traffico, sono morti, non bisogna neanche parlarne, è vilipendio a cadavere. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. E siamo qui con Eleonora Brigliadori, buonasera. Buonasera, grazie come per sta? L'entusiasmo. Come sta? Io bene, grazie, voi? Non c'è male, combattiamo qui con tutto il mondo, con gli scherzi telefonici e quant'altro. Parenzo, ma tu lo sapevi che la signora Brigliadori, è stata citata da... donna bellissima. Vabbè, adesso questo è donna bellissima, per radio non si può vedere, comunque tu puoi dare i tuoi apprezzamenti anche per radio, per carità. Allora, cioè, Brigliadori è stata citata dal nostro amico Vanoli, anche tuo amico signor Vanoli? Oh mamma mia, quello. Ma insomma, adesso passiamo a parlare di questo. Oggi io ho parlato con una giornalista che mi ha chiamato, sì, perché mi ha detto che voi parlate di politica. Sì, parliamo di politica, però in realtà noi volevamo parlare anche brevemente di quella cosa che si chiama l'urinoterapia. L'urinoterapia. Non vedo perché chiamate me allora. No, perché è stata citata, adesso magari ci sbagliamo, è stata citata questo signor Vanoli che abbiamo ospitato più volte, che ci ha spiegato. No, io ho incontrato questo signore, ma poi il fatto che persone abbiano utilizzato il mio nome a proposito, in maniera anche impropria, non sempre è una cosa corretta, anche perché in Italia quando si parla di questioni di salute dovrebbero essere prima di tutto le persone a decidere di farlo. Certo, non c'è dubbio. Quindi io ho deciso di fare alcune cose anni fa, di cui ho parlato all'interno della nostra società italiana, ho fatto grandi battaglie per l'allattamento al seno, contro la chemioterapia, per l'omeopatia, sono andata da porta a porta, l'ultima volta che sono andata, perché ho avuto il coraggio di fare una domanda ai tre leader politici dicendo come mai in Italia non è mutuabile. Sì. E questi tre si sono un po' imbacuccati perché in realtà mi avevano dato un fogliettino con una domandina stupida, come con un Stanford per la donna perfetta, però io credo, con i telecomandi nel cervello, perché ogni tanto le danno a porta a porta, danno sono andata raramente, però non parlo mai per telecomando se non con chi è che le ha dato sto bigliettino, scusi, signor Brigliadori? Qualcuno mi ha dato in mano un bigliettino, mi ha detto che se volevo fare quella domanda sarebbe stato carino, ma roba da matti, danno i bigliettini, che domanda è? Probabilmente alle ragazze che loro pensano non abbiano contenuti suggeriscono delle domande che fanno piacere alle persone presenti. Roba da pazzi, io non sapevo questa cosa qua, che davano delle notizie incredibili. Ma porta a porta nella mia vita ne ho viste di cotte e di crude. È una cosa pazzesca, ogni tanto abitualmente questo. Secondo me avviene abitualmente, a qualche persona danno dei bigliettini con le domande da fare, evidentemente sì. Ma quanti anni fa è successo, signor Brigliadori? Guardi, c'era Bossi, Bossi c'è ancora, non è che in quella c'era trasmissione. Lì perché era uno dei tre leader, poi c'era mi pare Casini. Sì. E un altro forse c'era... Vabbè, comunque, insomma... una serata qualcuno se la ricorderà, anche perché mi fecero i complimenti dicendo che l'unica domanda politica in quella puntata l'avevo fatta io. Dopodiché non mi hanno più chiamato perché... Vabbè, perché appunto, è stata indisciplinata. Sono in linea con il pensiero dominante, ma qui bisogna rendersi conto che il pensiero dominante è malato. Ma lei che ha votato, signor Brigliadori? Allora, Il discorso del voto intanto dovrebbe essere segreto, però se vuole faccio un ragionamento a voce alta. No, no, solo chi ha votato, poi i ragionamenti dice. No, lei non lo può sapere che ho votato. E perché non si può sapere? Appunto, glielo chiediamo. E glielo chiediamo, appunto, certo che non lo so. Per questo glielo chiediamo. Ma non è un mistero uno, non è mica il segreto di Fatima. Però, hanno stabilito che il voto è segreto. Vabbè, io lo dico chi ha votato. Alcune volte dicono che il voto è palese. Io lo dico chi ha votato. Io ho votato alla Camera 5 Stelle e al Senato 5 Stelle. Parenzo non ha votato perché era impelagato in altre cose, città. Era fuori residenza. Non riuscivo, se no avrei votato Partito Democratico. Io le posso dire una cosa, guardi, sì. Che più di 10 anni fa al Teatro Parioli, sì. Durante una serata di Grillo, sì. Siccome sono amica di Grillo da tanto tempo, sì. Lui mi aveva invitato su uno strapuntino sul palco, come faceva lì al Parioli quando non c'era posto in sala. Sì. E dopo una delle sue bellissime filippiche, sì. Che miravano a un capovolgimento sostanziale dei consumi, sì. Io urlai Grillo for President. A lei ha votato Grillo, su. Out of nowhere, come dire. E ci fu un grande applauso. Poi la sera andai a cena con Beppe, sì. E gli dissi, ma Beppe allora, ma perché non ti candidi? Perché almeno abbiamo uno da votare. Sì. E lui mi disse, no, ma Eleonora, ma chi me lo fa fare? Ma sei pazza? Cioè, però diciamo che all'epoca nessuno pensava a Grillo, ancora il blog non c'era. Negli anni lui ha lavorato molto bene. Ma e l'ha votato io adesso? Sono contenta che sia nata questa nuova realtà. E l'ha votato, una realtà dunque. Dettata proprio non tanto dal merito di chi. Sì, ma l'ha votato o no? Anche bene. L'ha votato o no alla fine? Sì. Ma io posso dirle qualunque cosa in questo momento. Vabbè, qualunque cosa è quello che le sto dicendo. No, la verità, ma che, perché dica sì o no, perché non questa ritrosia? Questa ritrosia a dire chi uno per chi vota? No, qual è il problema? Non è ritrosia, anzi, è non essere ipocriti, ma essere, diciamo, analitici rispetto alle cose ma che no, ma dette. Ho capito, Sebigliatori, io non è che le ho chiesto di spiegarmi la filosofia del mondo, cioè le ho chiesto chi ha votato. No, le posso dire che io avrei voluto votare un partito che non c'è. E chi è? Vorrei fare un partito delle donne, per esempio. No, dove le donne il partito delle donne, no, no, come per le carità. Imitatrici degli uomini, per ma carità. Delle donne che portino il valore della un attimo femminilità. Un attimo solo. Mi dicono che l'onorevole Scilipoti è l'unico rimasto dai tre senatori, oltre a quelli del 5 Stelle, nell'aula del Senato. Signor Scilipoti. Vabbè, sarà per la prossima volta, ma non risponde. Non risponde. Però stiamo concludendo, signor Bridori. Le voglio chiedere una cosa. Sono contento che quindi non ha bevuto l'urina, come sostiene quel personaggio. No, invece sì. L'urinoterapia serve o non serve l'urinoterapia? Vogliamo una sentenza allora, finale. Io le posso dire che a parlare di questa pratica che si chiama Shivambu dall'antico... Come si chiama? Come? Shivambu. Shivambu. Beh, sì, è una pratica meglio... che fu insegnata più di 6.000 anni prima di Cristo, sì. Quando Shivambu. Si conosceva qual era il rapporto del corpo umano nell'equilibrio della sua anima. Adesso devo chiudere, però devo dire che suona molto meglio Shivambu di urinoterapia. Sentiamo... Se lei conoscesse qualcosa di più... No, io non so nulla, ma lo spieghiamo la prossima volta, perché adesso abbiamo chiuso... Non lo so se ci sarà una prossima volta, perché visto che l'argomento è rimasto così lo so, purtroppo... inchiodato e ridotto, una zanzara insomma dovrebbe essere capace di ronzare per un po'. Esatto. Ci proviamo la prossima volta. Radio 24. La passione si sente. Ma va a morire ammazzato e vattene.